Buonasera. Allora, riprendo il discorso della volta precedente per punti, per tenerlo collegato, immaginando per questa sera soprattutto un lavoro insieme, quindi io lo inizio, voi intervenite, adesso vi do anche una traccia poi per intervenire. Innanzitutto scegliendo gli argomenti e poi cercando di mettere un po' a confronto la nostra esperienza di genitori, di insegnanti e comunque di educatori. Avevamo la volta scorsa concluso con la mappa su cui ci siamo mossi nel primo incontro, la mappa delle dimensioni della sessualità, ricordate la riproduzione, il gioco, la costruzione di un legame, il fare l'amore, il costruirsi una storia e poi l'invitare in questa storia un bambino. Abbiamo cercato di raccontare queste diverse fasi e poi anche di smontare lo schema immaginando una storia che ognuno traccia in un modo molto personale, probabilmente unico e sicuramente irripetibile nella storia del mondo, che la fa poi una storia speciale. Quindi sì, ci siamo dati una mappa di riferimento, qualche regola del gioco, qualche buona pratica per parlarne con i ragazzi, qualche consiglio, però poi alla fine ciò che fa la differenza sono le nostre vite e le loro vite, che scombinano sempre tutto ciò che noi avevamo in mente. Ma questo è bello, fa faticare un po' di più, ma è bello. E poi abbiamo provato a metterci in una posizione di educatori. E allora abbiamo risposto a domande molto di base per fare educazione sessuale. Chi la deve fare? Quando farla? E parlando di che cosa? E con quali strumenti? Sono gli argomenti che abbiamo affrontato insieme la volta scorsa. E poi abbiamo cercato soprattutto un approccio basato sul racconto, sulla narrazione, quindi non tanto trasmettere concetti attraverso definizioni, ma cercare di portare nell'esperienza di vita delle persone che ci ascoltano o che raccontano insieme a noi qualche cosa che potesse rimanere come traccia nel loro corpo e quindi nei loro pensieri, nelle loro emozioni e nel loro modo di porsi con gli altri. Avevamo affidato questa idea alla carezza, abbiamo usato la parola carezza, un po' come sintesi di tutta questa esperienza che si fa memoria e memoria che si fa progetto. E poi avevamo anche provato, ricordate l'aiuto era quello delle parole chiave, poche parole, per descrivere per esempio il corpo. Avevamo provato a rispondere alla domanda di un ragazzino di terza media, ricordate quanti buchi ha la donna, e abbiamo detto, beh, forse non è questione di buchi, forse non è un algoritmo quello che dobbiamo generare, e quindi non un numero finale, forse la questione va posta appunto in un modo di porsi con l'altro. Allora abbiamo smesso di parlare di buchi, abbiamo cominciato a parlare di accesso, e quindi di accoglienza, no? Dove il corpo è un luogo per incontrarsi, e così. E poi invece che usare definizioni un po' astratte, un po' astruse, per due che fanno l'amore vanno molto bene invece in un ambulatorio, in un ospedale, in una facoltà di medicina, mi hanno detto, ma invece che dire, non so, che la vagina è una cavità virtuale, muscolo membranoso, le cui pareti collabiscono, abbiamo provato a raccontarla. Abbiamo trovato delle parole, forse le ricordate ancora, no? Abbiamo trovato la parola innanzitutto nuda, spogliarsi, no? Ma chi? Abbiamo messo un lei, una terza persona, perché era un po' meno impegnativa, però potrebbe essere anche un tu o anche un noi, secondo il grado di vicinanza e di intensità emotiva che vogliamo generare con il discorso. Quindi già scegliere il pronome personale con cui raccontare è un momento importante di una narrazione. E poi, affidandolo a una terza persona, così ognuno può decidere quanto mettersi in quella scena, quanto identificarsi, quanto invece anche star distante e proteggersi e aspettare, no? Perché poi ognuno ha il suo tempo e non è che noi possiamo quel giorno a lezione decidere per tutti che è venuto il momento. allora abbiamo detto, beh, quando lei vuole conoscersi, se vuole, può, e allora si spoglia. E allora la prima parola che abbiamo messo è nuda, e poi specchio per potersi vedere. E poi abbiamo messo dei confini, ricordate, perché se no ognuno guarda un po' dove gli capita, no? E poi dentro questi confini abbiamo incominciato a trovare una fessura, i suoi bordi, e poi abbiamo visto che erano coperti di pelle, e poi abbiamo provato, altra parola, a scostare i bordi, non a separare, non a dividere, non ad allargare, tutte parole che riportano ad altri significati, a scostare con due dita dopo aver lavato le mani, perché? Perché così diciamo che non sono gli organi genitali sporchi, ma semmai sono le mani sporche che possono sporcare. E poi abbiamo preso un altro specchio e abbiamo visto che cambia il colore e quindi cambia il rivestimento, e abbiamo visto che è un rivestimento più sensibile ma non più delicato, è un rivestimento molto personale che risponde alle carezze secondo un proprio modo che è simile a quello di tutte le altre ragazze, ma è anche molto individuale, molto speciale, e poi un rivestimento che si bagna, e quando si bagna in qualche modo ci fa sapere attraverso il corpo cosa stiamo, come stiamo, cosa pensiamo, che emozioni proviamo, quanto vogliamo essere vicini o lontani dall'altro. E poi abbiamo visto che non c'era un buco perché non c'era un tubo, e allora abbiamo trovato un altro modo per parlare della vagina, l'abbiamo chiamata sacchetto, e abbiamo visto che è un sacchetto elastico, robusto, molto forte, molto resistente, capace di tenersi dentro le cose, non soltanto di farsi riempire, quindi tonico in qualche modo, chiuso in fondo, salvo un passaggio molto piccolo per far uscire le mestruazioni, per far entrare il liquido seminale, e quindi in una posizione che non disturba mai quello che c'è nella pancia, quando il pene entra dentro la vagina non dà fastidio. E poi abbiamo visto ancora il bordo dell'ingresso, che si chiama imene, e abbiamo parlato di verginità, non mettendola tanto tra le gambe quanto nella nostra mente, nei nostri pensieri, nelle nostre scelte. Abbiamo cercato di non fare un discorso troppo di parte sulla verginità, ma di pensarlo come un momento importante per le persone, perché un momento di passaggio, di transizione, facendo riferimento a un concetto antropologico, cioè di quella scienza che studia il modo dell'uomo di abitare il mondo, no? Concetto antropologico di prima volta, di inizio di una fase della vita o appunto di transizione. Ecco, e con queste parole abbiamo raccontato. Io le ho ridette perché voi poteste verificare se ancora ve le potevate ricordare. E siccome sono parole semplici, sono parole di casa, nessuna era un modo per tradire la scienza, abbiamo detto tutte cose scientifiche, garantite, però le abbiamo dette traducendole in parole più semplici che fanno da punto di riferimento, così possiamo partire da dove vogliamo in qualunque momento e muoverci nel discorso in qualunque direzione. Possiamo cominciare dalla fine, dal sacchetto, possiamo iniziare invece dallo specchio, possiamo iniziare dai dubbi quando voglia o non voglia, allora possiamo partire dal rivestimento che si bagna o non si bagna, e a volte sembra strano perché è tutto il contrario di quello che noi pensiamo, e così abbiamo tutte le direzioni possibili per raccontare, per esplorare. Questo è ciò che avevamo provato a fare insieme la volta scorsa. Adesso volevo farvi vedere, soltanto pochi minuti, una storia, questa volta scritta dai bambini. Le insegnanti di questi bambini hanno fatto un percorso di formazione. Devo dire che le insegnanti di questi bambini erano anche molto speciali nel corso, hanno subito avuto una parte importante, molto da protagoniste, perché si sono messe in gioco e si sono lasciate avviare verso un'avventura, verso un modo nuovo di esplorare la sessualità. Tutto è successo una quindicina d'anni fa, quando il Ministero, allora si chiamava della Sanità, aveva commissionato attraverso la Comunità Europea un grosso progetto sulla salute e a Vicenza c'era la sede del progetto Salute sull'educazione sessuale, altri erano sull'educazione alimentare, sulla prevenzione dei tumori e così via. E io ero stato chiamato a coordinare dal punto di vista scientifico questo progetto e avevamo lavorato per 5 anni, quindi formando un grosso numero di insegnanti su tutto il ciclo scolastico, quindi in ordine grado, e avevamo lavorato con più di 1300 ragazzi di nuovo ai bambini, agli adolescenti e così via. E questa è una delle classi su cui avevamo, diciamo, sperimentato il nostro approccio narrativo. Sperimentato nel senso vero della parola, cioè facendo proprio una sperimentazione scientifica, mettendo a confronto due metodi. Alcune classi erano seguite col metodo tradizionale, cioè invitando gli esperti, gli operatori dell'ASL, altre classi invece erano seguite col metodo narrativo, quindi formando gli insegnanti di classe e chiamando gli specialisti, gli esperti, solo per fare qualche piccolo intervento di chiarimento sulle parti in cui gli insegnanti non si sentivano pronti, preparati. E questo è ciò che hanno fatto in una scuola materna, ok? Siamo all'ultimo anno della scuola materna, quindi i bambini più grandi hanno proprio costruito un volume, no? Con la copertina e tutte le pagine colorate, e hanno fatto i disegni e hanno scritto i testi, i bambini. Poi sono stati aiutati, l'hanno fatto al computer, ma quello che vedete è tutto prodotto loro. E hanno raccontato la storia del cicetto e della cicetta, così hanno deciso di chiamarli. Vediamo se funziona, ecco che ci sono i ringraziamenti. E qui abbiamo la loro storia. Io sono il cicetto, mi trovo in mezzo alle gambe dei maschi e ho una forma allungata. Vicino a me ci sono due palline dove cresceranno i semini quando sarò grande. Io invece sono la cicetta e mi trovo in mezzo alle gambe delle femmine. Ho la forma di due labbra che hanno in mezzo due buchini, uno serve a far uscire la pipì e uno i bambini quando sarò grande. Quando un uomo e una donna si incontrano, stanno bene insieme, fanno tante cose belle, si parlano volentieri e sono felici, vuol dire che sono innamorati. Molte volte poi loro si sposano. Quando vanno a letto, se tutti e due lo desiderano, possono mettersi nudi e farsi tante coccole, darsi baci e farsi le carezze. Succede che all'uomo viene il cicetto duro, così lui lo mette nella cicetta della donna e si dice che fanno l'amore. Dal cicetto escono i semini che vanno in un sacchettino che si trova nella pancia della donna, dove ogni mese cresce un ovetto. L'ovetto non cresce nel sacchettino, ma sono dettagli che non abbiamo ancora, insomma, preteso. Dai, va bene lo stesso. Il semino più veloce entra nell'ovetto e così comincia a crescere un bambino. Il bambino, che è più piccolo della capocchia di uno spillo, si attacca al sacchettino della donna e attraverso il cordone ombelicale comincia a prendere da lei dei pezzettini piccoli piccoli di cibo e delle bollicine piccole di aria. Così cresce, cresce, cresce e diventa sempre più grande. Dentro la pancia il bambino sta bene al caldo, si muove, dà i calci, i pugni, dorme, si sveglia, ascolta la voce del papà e della mamma e anche la musica. Dopo 9 mesi si sente un po' stretto dentro la pancia e così fa una capriola. Si mette a testa in giù e comincia a spingere verso la cicetta della mamma perché vuole uscire. La mamma si accorge che il bambino vuole uscire perché sente male alla pancia e la sua cicetta si allarga come un elastico. Allora va all'ospedale dove i dottori l'aiutano a far uscire il bambino. Quando il bambino è nato, i dottori tagliano il cordone ombelicale senza far male al bambino e lui comincia subito a piangere perché gli entra l'aria nei polmoni. Non è scesa. Appena nato gli fanno il bagnetto, lo vestono e lo mettono nella culla con la coperta azzurra se è un maschio e rosa se è una femmina. Abbiamo un po' di stereotipi, ma insomma vanno anche bene loro. Più tardi viene fame, allora lo portano dalla mamma che lo mette vicino alle tettine, così lui succhia il latte e continua a crescere. Ogni volta che nasce un bambino il papà, la mamma e tutti i parenti sono molto felici. E poi ci sono tutte le loro firme. L'applauso è rivolto ai bambini, che sono molto felici. Ecco, questo è l'esempio, questo possiamo spegnere. È l'esempio di come, insomma, anche alla scuola materna si può lavorare con loro. Mettevano tutti in cerchio, ognuno diceva la sua, i maestri li aiutavano un pochino, no? A raccontare, e poi hanno preso le cose che gli sembravano più importanti, le hanno disegnate, raccontate con frasi semplici, messe sul computer e fatto il libro. Ok? Questo è un modo dei tanti, dei mille modi che però si basano sull'approccio narrativo. Vedete che insomma dicendo le parole semplici e concetti semplici anche bambini piccoli, 5 anni, riescono a memorizzare, a mettere in sequenza e a costruire un loro racconto, una loro immagine. Questo era soltanto per dare un po' di sostegno al discorso dell'altra volta che avevamo detto essere trasversale a tutte le età, no? Ma poi per i bambini ci siamo domandati, ma come si fanno a spiegare le cose, no? Normalmente ci aiutano loro, ci fanno le domande, man mano con le nostre risposte, insieme a loro costruiamo il racconto. Bene, ora proviamo a immaginare il lavoro di questa serata. Io farei riferimento al programma che vi avevo proiettato la volta scorsa, tanto non si vedeva dal fondo, quindi ho anche rinunciato a riproiettarlo, ma ve lo leggo. E decidiamo insieme su che cosa volete che spendiamo qualche parola in più, perché ovviamente tutto il programma non lo riusciamo a svolgere, però ci sono moltissime cose che avete già in mente voi e sapete già molto bene come affrontare con i vostri bambini o adolescenti o anche con altri adulti, e quindi le diamo per disponibili. E ci conviene andare invece sulle parti più atipiche, quelle che siamo meno pronti a discutere con loro perché ci abbiamo pensato di meno, perché abbiamo avuto meno occasioni, meno domande, meno momenti in cui dovevamo insomma superare un'eventuale difficoltà. Allora, io vi leggo ciò che loro vogliono sapere, questa volta non con le loro parole come abbiamo fatto nei lucidi della volta scorsa, ma con, diciamo, un riassunto di migliaia di loro domande. Allora, vogliono sapere come sono fatti gli organi genitali, abbiamo fatto un esempio la volta scorsa e adesso l'abbiamo visto riportato qui dai bambini. Come si possono conoscere, ne abbiamo parlato, a cosa servono e come funzionano, lo abbiamo messo sempre dentro allo stesso racconto, quindi l'idea è non fare una scheda sull'anatomia, una scheda sulla fisiologia, una scheda sulla patologia, no? Perché diventa un modo molto schematico e difficile da ricordare. Noi abbiamo raccontato, e raccontando dicevamo un po' come è fatto, un po' come funziona, un po' a cosa serve, un po' come si usa, un po' come si sta mentre lo si usa. Prendete il rivestimento della vulva, no? Quindi quella che viene chiamata mucosa genitale, che come nome non è carino, chiamiamolo il rivestimento della vulva, e si presta molto bene per l'anatomia, la fisiologia, la psicologia, la relazione, le emozioni, la relazione tra mente e corpo. Basta prenderlo, dire due o tre parole di questo rivestimento e si aprono tutte le strade. Meglio che mettere in testa l'anatomia, poi la fisiologia, poi la psicologia, poi la patologia, perché non ci ricordiamo le cose così di solito. Meno che non facciamo gli studiosi, se diamo gli esami li dividiamo così, ma se facciamo carezze cerchiamo di mettere in una carezza tutte le conoscenze necessarie, ok? Questo è il sistema. Poi chiedono invece delle cose un po' più impegnative. Come si usano il corpo e gli organi genitali quando si è soli? Vogliono sapere cose sulla masturbazione. E poi come si usano il corpo e gli organi genitali quando si è in due? Vedete che anche questi bambini già si sono fatti un'idea molto semplice, molto di base, ma insomma qualche cosa volevano sapere, qualche cosa le maestre gli hanno detto, qualcosa sapevano già loro e hanno messo tutto insieme. Quando hanno 15 anni ne vogliono sapere di più. Poi vogliono sapere cos'è il piacere, che significa fare l'amore, come si fa l'amore, quando si fa l'amore. Tante volte la domanda è quando si può fare l'amore, perché hanno un po' di dubbi sull'età giusta. E questi potrebbero essere argomenti. Poi vogliono sapere cosa significa innamorarsi, amare, costruire un legame di coppia, costruire una famiglia. Come ci si fa la corte e come ci si comporta in una coppia. Poi vogliono sapere come si usa il sesso per fare il bene e come fare o non fare i bambini facendo l'amore. E poi come non ammalarsi, questo man mano che diventano grandi diventa importante, la prevenzione delle malattie trasmesse sessualmente. Trasversalmente a questo c'è il tema, spesso viene da dire il problema, invece io direi il tema dell'orientamento sessuale, per se da maschi ci piacciono le femmine o invece ci piacciono i maschi, se da femmine ci piacciono i maschi o invece ci piacciono le femmine. E il tema della propria identità, cioè se da maschi ci si sente maschi o non tanto o per niente, se da femmine ci si sente femmine o non tanto o per niente, e sono problemi. Sì, a quel punto, no? Il tema per sé non è un problema, ma se io ho il corpo in un modo e i sentimenti in un altro, vivo un problema. Se a me piacciono i ragazzi e sono un ragazzo e vivo in un mondo dove devono piacermi le femmine, vivo un problema. Io non sono di per sé un problema, però lo divento. Lo divento perché il mondo non è d'accordo con me. E questo è stato più volte chiesto nell'intervallo, se poteva essere oggetto di qualche nostra riflessione, quindi magari sì. Io vi avevo già detto di fare sempre una cosa, quando vi rivolgete a una classe per esempio, o comunque a gruppi di persone, non date per scontato di avere tutte persone eterosessuali che vi ascoltano, anzi date per scontato che non è così. Poi c'è la volta in cui di 20 persone per combinazione sono tutte eterosessuali, ma più spesso non è vero. Ok? Quindi a qualcuno non state più parlando, è come se cominciate a metterlo fuori dal discorso. Allora, d'abitudine, anche se è un po' difficile perché non viene nel nostro linguaggio etero, no? Quando dite se un ragazzo va con la sua ragazza o col suo ragazzo, è così spiegate che state parlando a tutti. Ok? Solo che è difficile dire o col suo ragazzo, intanto perché non vi viene, no? Non ci viene, è un po' in controtendenza. E poi perché pensiamo che potremmo ricevere delle critiche o forse anche qualche richiamo, qualche ammonimento, no? Come dire, ma stai facendo? Che tipo di educazione stai facendo? La risposta sarebbe, sto parlando a quel 6, 8, 10% di persone che sia con orientamento che con l'identità non sono così come noi ce li immaginiamo e devono ricevere un discorso e un'educazione sessuale lo stesso. Perché facendo così, facendo educazione sessuale per tutti. Cioè, è terribile fare un'educazione sessuale speciale per sottogruppi, piccoli gruppi di persone. Noi parliamo sempre di persone umane, tenendo conto che non hanno tutte lo stesso orientamento. Però non è facile. Per cui, se volete, proviamo a parlarne un po'. Cioè, proviamo a stare nella difficoltà, a vedere quali sono i problemi e come fare. Okay? Questo è, diciamo, il campo. Ve lo dico in un modo ancora più pratico. Una delle cose importanti che potremmo provare a discutere questa sera insieme, io vi posso guidare, poi però ne parliamo tra di noi, è cercare di capire come funziona il sesso quando siamo sessualmente impegnati, perché è una delle cose sempre trascurate nell'educazione sessuale, no? Cioè, si parla intorno al sesso, però cosa succede? I ragazzi lo vogliono sapere, i bambini meno, si accontentano di cose più semplici come quelle però che abbiamo appena visto, quindi anche loro vogliono sapere un po' di cose. Ma i ragazzi che invece entrano nella vita sessuale mettendo insieme tutto, no? Quindi la curiosità, l'esplorazione, il desiderio, il gioco, e poi adesso anche il legame, e poi adesso anche il sentimento, il significato, e devono incominciare a fare questa integrazione, ricevono eccellenti spiegazioni da parte di ognuno di noi sull'amore, sull'importanza della relazione, sul significato di essere coppia, eccetera, no? Però che cosa succede da quando si baciano a quando hanno finito? Non lo sa nessuno bene. Mi spiego. Io di me stesso faccio anche il sessuologo, un po', perché faccio forse più altre cose nell'ambito clinico, però faccio anche il sessuologo. E tutti i giorni ho di fronte a me persone di tutte le età che sono disorientate e confuse su ciò che ci si deve aspettare da un rapporto sessuale. Poi a me il rapporto non piace, comunque da un incontro sessuale. Va bene? Perché il rapporto sessuale è una roba un po' tecnica, no? Cioè, è difficile che noi chiediamo a qualcuno di avere un rapporto, chiediamo di far sesso, di fare l'amore, di star con noi, di giocare, è difficile che usiamo la parola rapporto. Però, insomma, questo è un pezzo che di solito manca. Quindi, se avete piacere, possiamo provare a guardare dentro a una sequenza e provare ad avere in mente 4-5 cose importanti da ricordare con i ragazzi, non con i bambini. Questo discorso dei bambini tendenzialmente interessa meno. L'altra questione è la questione del come costruire una relazione di coppia. Di nuovo, abbiamo un mucchio di buone idee, però io continuo a vedere ragazzi e ragazze che non si scelgono, ma capita che stanno insieme e poi dopo ci stanno, poi dopo faticano a lasciarsi o invece si sposano o vanno a convivere, ma così. No, non è una scelta. E se dicessero, vabbè, voglio scegliere, sarebbero abbastanza in difficoltà sul capire quali sono i criteri per fare una scelta. Cioè, per fare una scelta bisogna di solito avere degli elementi su cui fondarla. Vado a chiedere a una ragazza perché stai con lui, no? Se vi dice perché mi piace e sto bene, è già fantastico. Mi spiego. Perché tante volte vi dice, non lo so perché sto anche male, ok? Vabbè, se voi prendete 10 coppie, 4 stanno male insieme, cioè non sono felici. E di queste 4 ce ne sono un paio che stanno malissimo insieme, ma non si mollano. Ok? Non sto parlando di coppie che magari hanno già costruito una vita insieme, di coppie che hanno tutte le possibilità di scelte davanti a sé, ma non ce la fanno. Ok? Perché non hanno né tanto chiaro cos'è mettersi insieme, che cos'è scegliersi, e che cosa forse è necessario perché quella sia una coppia, non dico per sempre, che sarebbe già una meraviglia, ma almeno per un po'. E di questo anche che sarebbe l'educazione sentimentale, non sempre si parla con chiarezza, e potrebbe essere un altro argomento. E poi lascio voi di mettere in campo qualunque altra idea. Allora, io adesso smetto di parlare davvero e lascio a voi di decidere che cosa volete che facciamo stasera. Orientiamoci. Questi o altri argomenti, sempre che io ne sappia parlare. Ma se mi chiedete cose che non so, vi dico, non sono capace io. E ci riferiamo a qualcun altro per la prossima volta. L'ultimo che ho detto genera inquietudini. Allora, qui c'è qualcuno che propone di parlare di come ci si sceglie. L'omosessualità e della transessualità. Riuscite a sentire? Poco e male. Io ho un figlio gay e faccio parte dell'associazione AGEDO, associazione genitori, amici e parenti di persone omosessuali. E a Cuneo c'è un punto d'ascolto, è un'associazione che è diffusa in tutta Italia, e da settembre c'è un punto d'ascolto a Cuneo, di cui io sono responsabile, per aiutare i genitori ad accogliere l'imprevisto dell'omosessuale dei figli, e con grande rispetto e con grande pazienza accompagnarli nel ricostruire il rapporto col figlio omosessuale. Aiutiamo anche i figli a vivere un momento di serenità e un ambiente familiare che li accoglie. Grazie. Sì, grazie intanto per questa testimonianza. E proviamo a parlarne, se volete. Esprimetevi. Allora, proposta, parliamo di come si costruisce una coppia. Parliamo di orientamento sessuale e di identità di genere sessuale. Ma anche del primo, parliamo di tutto, insomma. No, però potremmo invece farci una domanda, riflettendo un momento, invece che di questi tre temi, ce n'è forse qualcuno più urgente, più importante, mettiamolo in scaletta, perché sennò sembra una forzatura, io questi vi ho detto, questi accettate, ma provate a immaginare se invece, oltre a queste tre cose, che possiamo provare ad affrontare, ce ne sono altre, altri contenuti, altre questioni che preferite tenere in conto. Prego? Sì, la sofferenza nella coppia. Sì. La sofferenza e la separazione, sì. Questo lo teniamo già in considerazione adesso, parlando magari di questo primo tema. Come tramandare a un figlio adolescente il bello dell'ascoltare, di non, per virgolette, farlo. Ok, come tramandare a un figlio adolescente e fargli sapere che è bello aspettare per non fare sesso col primo che capita, o l'amore col primo che capita. adesso vanno in discoteca. I posti c'erano anche una volta, insomma, solo meno rumorosi, però adesso alla prima sera c'è, è in senso antico, insomma, biblico, anche se la Bibbia lo intendeva in un altro modo. Va bene. La ferita dell'anima, sì. Sì, di tutte e due le cose. Questo è importantissimo, cioè come far capire a una persona che merita aspettare. E poi aspettare quanto, aspettare chi, perché insomma, no, alla fine è anche complicato dare dei criteri, però che merita, sì. E così le ferite che invece possono derivare, visto che non possiamo difenderli, che farne. Ok. Va bene. Prego. Come difendersi dalla pornografia? Temo di non sapervi dare una risposta. Come provarci, insomma. Sui risultati ho dei dubbi. Però sì. No, no, va bene. Invece è sensatissimo. Proviamo a parlarne. Perché forse dipende anche da qualche decisione che possiamo prendere noi. Un po'. Poco, però un po' sì. Stanno crescendo le iniziative intorno a questo tema, vuol dire che è un problema su cui cominciamo ad avere paura e siamo molto sensibilizzati. Non sappiamo tanto come fare, però ne parliamo. Va bene. Allora, partiamo dalla parte più romantica, no? Quella della costruzione di un amore. Forse. Noi abbiamo già detto qualche cosa, vi ricordate quando abbiamo parlato del legame? Allora, noi siamo attratti, e questo dobbiamo condividerlo con i ragazzi, qualcuno ci piace più degli altri. A volte non vogliamo farlo sapere, per esempio i genitori, e va bene, non so, a volte sono problemi farlo sapere i genitori. A volte non vogliamo farlo sapere nemmeno ai nostri amici e qualche volta nemmeno a noi stessi, per cui facciamo come se non fosse vero che qualcuno ci piace. Okay? Questo, per esempio, nell'omosessualità è frequentissimo. Okay? Sono un ragazzo, mi piace un ragazzo, non me lo faccio sapere, lo sento, ma lo nego, non ci credo, perché ho paura, perché sto male, perché sono fuori dal gruppo. Ok? Ma non soltanto per una questione legata all'orientamento, ma tante volte io ho paura di rischiare, di avvicinarmi, anche se l'altro è dell'altro sesso, o forse qualche volta proprio perché è dell'altro sesso, ed è così tanto diverso da me. No? E quindi sapere che sono attratto, alla fine vuol dire percepirmi un po' più debole, un po' più fragile, un po' più vulnerabile. Perché vuol dire che un po' di ciò che io sarò e io farò non dipenderà più da me e dal mio ragionamento, dalla mia mente, dalle mie decisioni, ma da qualche cosa che l'altro mi fa accadere. Ed è qualcosa di così importante che sembra decidere per me, in certi casi, in certi momenti. Mi spiego. E questo non è semplice per tutti, perché siamo diversi. Qualcuno è contentissimo, non vedeva l'ora. E qualcun altro è preoccupatissimo perché, per esempio, al centro della sua vita ha messo il controllo, spesso perché quella vita col controllo ha avuto dei sei problemi, per esempio con i confini che non sono stati rispettati, dai confini del corpo, agli spazi, ai confini su certe decisioni. Mi spiego. E quindi il bisogno di controllare è forte, adesso sono appena riuscito a tenere a bada mia madre, ora mi piace una ragazza e di nuovo perdo il controllo. Mi spiego, su di me, non è una cosa semplicissima, è meglio giocare a pallone. Okay. Non sto parlando dei ragazzi, sto dicendo, non possiamo metterli tutti nella stessa categoria. Ci sono storie molto portate a lasciarsi prendere da questa meravigliosa corrente d'amore, altre storie molto perplesse e altre spaventatissime. E facciamo tre gruppi, ma in realtà sono innumerevoli i gruppi, i sottogruppi, va bene? E poi però a volte l'attrazione è così potente che ci lasciamo avvicinare dall'altro o addirittura lo andiamo a cercare. Giochiamo un gioco di corteggiamento, di occhiate, di sguardi, di piccole malizie, fino a quando scopriamo che c'è interesse da tutte e due le parti. Poi prendiamo l'altra via, quando solo uno dei due è interessato all'altro e non viceversa. Seguiamo la via romantica. Okay. E viene il momento di dichiararsi, di mettersi insieme. Questo momento è accompagnato da nuove paure. La paura dell'abbandono, mi metto insieme e poi tu mi lascerai. Ricordate, ne abbiamo parlato due volte fa. La perdita della libertà, dovrò fare quello che vuoi tu. O, in qualche caso, di nuovo, confini incerti tra me e te. Questi sono tre grandi temi e tre grandi paure. L'innamoramento ci dà una grossa mano e ci fa superare queste paure, ci rende irragionevoli e spericolati, ok? Ci fa fare cose che con un ragionamento calmo e pacato non faremmo, ma invece con una buona dose di dopamina, endorfine, ossitocina in giro per il cervello, sono tre molecoline pestifere che messe insieme fanno questo disastro della nostra mente, arriviamo finalmente a farci prendere o a cadere in amore, come dicono gli inglesi. E questa caduta dovrebbe atterrare su un terreno sano. Allora, tutte queste cose potrebbero già essere almeno dichiarate. Parlando con i ragazzi potremmo dire: ti piacerà qualcuno, sarai molto attratto e anche un po' spaventato, ma ti verrà voglia di andargli incontro. Forse vi metterete insieme e quando ti metterai insieme sarai di nuovo molto felice e un po' spaventato. Per questioni di libertà, di abbandono e di confini, solo lo riassumo. Okay. Però qualcosa ti prenderà la mente e ti farà dire: no, è bello così. E così da quel giorno avrai un ragazzo, avrai una ragazza, che è diverso dall'aver fatto sesso con qualcuno in discoteca, mi spiego. Poi il sesso può essere tanto o poco, ma insomma, aver avuto un incontro con qualcheduno che non è una persona, in realtà noi diciamo è un gioco molto inconsistente dal punto di vista della relazione. E non dico ho un ragazzo perché ho fatto sesso una notte con qualcuno. Okay? Fatto tutto questo percorso invece è un ragazzo. Va bene, adesso ci mettiamo insieme. E che cosa ci promettiamo? Di stare insieme. Ok? E poi vogliamo l'esclusiva. Vogliamo l'uno dall'altro la fedeltà, quindi vogliamo amore, vogliamo vero amore, quindi amore e verità, vogliamo vero amore libero, libero vuol dire che non sei costretto a stare con me, che mi scegli liberamente, perché sono io e non perché qualcuno ti costringe, nemmeno perché io ti costringo, va bene? E poi vogliamo un amore che ci riconosca, non un amore dato a pioggia perché io amo la gente, no, io amo te. E quindi devo poterti riconoscere e distinguere da tutti gli altri. E voglio un amore dedicato, dopo che sono stato riconosciuto, l'amore a me è unico, cioè solo a me si dà così l'amore, se no che cos'è? Un pacchetto che distribuisci un po' a me, un po' a chi incontri, no? L'amore lo siamo insieme a un'altra persona e quindi lo vogliamo vero, libero, vicendevole, riconoscente e dedicato. Abbiamo delle belle pretese. Ma se non è così non ci piace, non ci convince, siamo pieni di dubbi. E poi lo vogliamo per sempre. Non tutti. Non è vero. C'è gente che si spaventa alla sola parola. Ok, e quindi dicono per un po', ok? Un po' quanto, anche molto, però non per sempre, va bene? Perché per sempre è pericoloso per qualcuno. Ah, anche qui abbiamo tanti punti di vista, tante storie, tanti punti. Ma immaginiamo che adesso due abbiano scelto un grande amore come tema del loro incontrarsi. Un grande amore vuol dire un amore grandioso, vuol dire un amore fondato su qualche cosa di molto solido. Perché proprio con te? Questo è un mistero. Va bene. In realtà, C'è una grande confusione tra il nostro sentire, che è una cosa meravigliosa della vita, e l'amore. Se noi riduciamo il nostro sentire, le nostre emozioni, il modo di percepire il corpo, il modo di rappresentarci, quella serata, quell'incontro, la vita stessa, mentre tu sei con me, e se confondiamo questo, se lo riduciamo all'amore, facciamo un grosso errore, perché questo, beh, questo è l'innamoramento, è la passione, è la festa splendida dell'incontro. Ma l'amore ha una sua caratteristica fondamentale. È progetto, è storia. Non è una cosa che provo adesso. Certo, è nel presente che so di provarla, però non posso ridurla a ciò che provo adesso. Poi domani non lo so. E se l'amore è progetto e storia, incominciamo a distinguere l'innamoramento dall'amore attraverso una cosa un po' impegnativa, attraverso il dolore, attraverso la sofferenza. Oh, non perché per amare davvero si debba soffrire, ma semplicemente perché la vita ci porta alla sofferenza. E quindi dobbiamo farne qualche cosa. E allora quando c'è una difficoltà io posso dire no, dai, basta, non era amore. E invece sto facendo una cosa strana, perché adesso diventava amore, no? Prima era una chimica meravigliosa che ci faceva star bene tanto. E chi non ha voglia di stare insieme a un altro se si sta bene e basta, no? Ovvio, necessario, inevitabile, ma il problema dell'amore è da quando si incomincia a stare un po' male. Poco a poco, però devo incominciare a domandarmi che farne di questa sofferenza. Per esempio, quando un amore mi chiede di aspettare, no? Abbiamo tempo dopo, proviamo a parlare di una cosa importante, che è la manutenzione del desiderio sessuale. È una delle cose di cui ci dimentichiamo più spesso e che ci rovina la vita coniugale. O ci rovina la vita di coppia. Se non facciamo una continua manutenzione, si sciupa tutte le cose della vita e dopo un po' funziona più. Okay. E per fare buona manutenzione ci vuole attenzione, impegno, dedizione, quindi una quota di sofferenza, perché è tutta roba divertentissima. Cioè, se devo aspettare, ti dico, uff, dai, adesso. Se devo mettermi nei tuoi panni, dico, ma sempre, ma... Allora noi per fare questo passaggio tra l'innamoramento, la festa e l'amore dovremmo fare un accordo a latere e dire ragazzi cosa vogliamo fare della sofferenza in questa vita? Senza una buona teoria sulla sofferenza e sul piacere, no? Non riusciamo a fare l'amore, non riusciamo a costruire un amore, non riusciamo a essere progetto, a essere storia e quindi a incidere nel mondo, nel mondo l'uno dell'altro. E anche nel mondo intorno a noi. Io non lo so che teoria della sofferenza vogliamo proporre loro, spero non quella dominante oggi nella nostra cultura. Perché oggi c'è un'idea terribile. L'idea è che la sofferenza si può togliere e deve essere tolta, e anche al più presto. E il metodo per toglierla è anche completamente dichiarato. Denaro e ricerca scientifica e tecnologica. Bene, con questi due sistemi si toglierà il dolore dal mondo. È una trappola mortale, è una delle proposte più insulse che possiamo farci tra persone umane, ma la vediamo rappresentata tutte le sere, in tutte le forme, in tutti i modi. Allora, il problema non è tanto se siamo capaci o non siamo capaci di amare, tutti facciamo quello che possiamo, viene un po' bene, un po' male. Ma è se abbiamo in mente cosa fare del dolore e cosa fare del piacere. Ne abbiamo parlato un pochino insieme, forse, del dolore e del piacere. Ma forse è meglio metterlo a fuoco bene. C'era una vecchia teoria, anche sbagliata, che ci diceva, era la neurologia che usava questa teoria, e diceva: qual è la meta di ogni comportamento umano? Provare piacere e togliere dolore. Questa era la spiegazione del comportamento umano. Un po' è vera, è la cosa che facciamo quando mettiamo la mano su una piastra che sembrerebbe fredda, invece non avevano staccato il gas e brucia. Vabbè. E allora cosa faccio? Tolgo la mano, non è che faccio dei grandi ragionamenti, il mio corpo mi dice scappa dal dolore, quindi un po' questa teoria è vera, però non è vera completamente, perché è molto più usata un'altra teoria, cioè che il dolore e il piacere sono degli indicatori di direzione. La meta non è provare piacere o smettere di provare dolore, la meta è dare senso alla nostra vita. La mente è costruire relazioni all'interno del quale trovare un senso per la nostra vita. Semmai una delle mete più antiche è garantirci quote di sicurezza sufficienti per continuare a vivere. Dice, queste sono le mete. Il piacere e il dolore ci dicono vicino, lontano, troppo lontano, ti stai perdendo. E sono come delle frecce lungo la strada. Okay? Immediatamente funziona la teoria, togli il dolore e cerca il piacere. Ma nella vita no. Una vita lunga, no? Cosa fa una mamma quando veniamo al mondo? Prima si regola sul darci piacere immediatamente appena abbiamo un po' di fastidio, no? Quindi se ci mettiamo a piangere ci dà il latte. E poi dopo incomincia a insegnarci ad aspettare, no? Dice, dai, adesso, 5 minutini, che sono, a noi sembrano sempre un po' una presa in giro, ma insomma, 5 minutini prima la mamma ti fa la merenda, no? E dice, no, perché? Io fammi adesso. E tu aspetta un pochino, no? E la mamma sta facendo una cosa fantastica, se si ricorda di farla. Perché anche la mamma costa, questo giochino, perché io continuo a lamentarmi che ho fame. Se invece fa che darmi la merendina, mi accende anche il DVD, e tutto sistemato e smette di soffrire la mamma, ok? Soltanto che la mamma in questo modo, dicendomi aspetta, mi sta liberando. Mi sta liberando dal bisogno di risolvere immediatamente ogni mio desiderio. Perché questo bisogno in clinica, in psicologia clinica, si chiama dipendenza. Sì? Ci sono dei centri dove lavoriamo con persone che hanno bisogno di stare bene subito, al massimo fra 6 ore, ma di più è troppo. Mi spiego? E non ce la fanno a fare diversamente, per tutta una storia lunga e complicata, e diciamo soffrono di una dipendenza da. Se la mamma ci insegna ad aspettare, a procrastinare la soddisfazione, ci dà degli spazi in cui possiamo costruire di più, se no rimaniamo in balia della soddisfazione immediata di ogni bisogno. Mi spiego? E quindi la mamma ci sta liberando. E ci insegna ad amare. L'amore è anche pazienza. Ed è anche attesa. È vero che io ti voglio adesso, ma se poi mi aspetti, io ci sono davvero. Adesso ti puoi soltanto prendere un pezzo di me, cioè se vuoi te lo faccio fare. Sapete in quante coppie qualcuno fa fare all'altro l'amore? Non è amore, è un po' un dispiacere per entrambi, perché chi si lascia fare non è felice e chi si prende soltanto il fondo di una persona non è felice. Okay? Allora, l'idea è questa, c'è del piacere che ci piace prendere subito, ma c'è del piacere che conviene costruire nel tempo, e bisogna essere liberi dal bisogno di averlo subito. Rivolgiamo il discorso, il dolore, voi dite, beh, quello è semplice, si fugge e basta, ma non è affatto vero. C'è gente che alla domenica mattina si alza alle 4:30 per andare in montagna, perché lo fa? Perché non sta a dormire? Che può? No? Se uno si alza tutte le mattine alle 6, perché la domenica alle 4:30? E poi fa freddo? E le mani sono gelate? E manca il fiato? Vedete che siamo strani, che cerchiamo del dolore. Viene un amico e ci dice, mi dispiace vederti conciato così, io sono ricco. Ti vengo a prendere in elicottero alle 10 e ti porto dove tu volevi arrivare. 10 minuti si arriva. E voi gli dite, non mi interessa. Cioè, grazie per il passaggio, però non mi interessa. Perché? Perché voglio arrivarci io, voglio conquistarmela, quella vetta. Ok? Se no non è la stessa cosa. Dice, ma il panorama è lo stesso, sai, da lassù. No, non è lo stesso. Vedo le stesse cose, ma vedo cose che tu mi hai portato a guardare dall'alto. Diverso. E questo, guardate, in ogni nostra giornata. Ma se siete, avete mezz'ora tranquilla, perché fate la settimana enigmistica che è un concentrato di dolore? Chi ve lo fa fare? Perché se ne trovate una troppo facile andate sulle pagine più dolorose? No? Dove non si riesce più? Perché non è vero che fuggiamo il dolore. Quindi c'è del dolore da fuggire e c'è del dolore che invece ci piace cercare perché aiuta a dare senso alle cose. Così come c'è del piacere che ci piace ottenere, ma del dolore che ci piace aspettare per dare più senso alle cose. Questo è il modo degli umani, ok? Ed è dunque da imparare, non veniamo al mondo sapendolo usare, ce lo devono insegnare. L'amore è anche questo, è saper spendere bene piccole quote di dolore e saper usare bene piccole quote di piacere, in un modo sapiente, saggio, che si impara. Ecco, questa è una teoria del dolore molto basale, molto semplificata, ma almeno è un punto di partenza. Perché poi dobbiamo invece combattere con tutte le nostre forze il dolore che ci fa disperare, il dolore che ci confonde, il dolore che ci fa chiudere in noi stessi, il dolore che ci fa perdere il senso delle cose, il dolore che ci blocca nella soluzione dei problemi. Quel dolore lì va subito contrastato e quando non siamo capaci noi dobbiamo contare sulla comunità in cui viviamo. Abbiamo bisogno di altri che insieme a noi lo sconfiggano quel dolore. Da soli è terribile. Quindi non stiamo facendo l'apologia del dolore, cioè non stiamo benedicendo il dolore, stiamo soltanto dicendo bene di quote di dolore che servono per vivere in una vita che ha senso. E altre che vanno combattute. Così come certi piaceri è bello averli come guida, no? Uno che pianta una vigna, certo che pensa al vino che berrà, ma prima di ber quel vino. Ok? Però se vuole bersi e pianta la vigna, se no va a comprarselo, ma non è il suo vino, ha un altro sapore. Okay? Ma non ha un altro sapore in bocca, a volte si compra del vino anche migliore, non è quello, no? Ha un altro sapore dentro di noi, ecco, questo è del piacere. Vabbè, immaginiamo di avere a disposizione una teoria sul dolore e sul piacere. Torniamo a parlare dell'amore. Che tipo di sofferenza ha senso fare con un uomo o con una donna, accompagnandoci nella vita? E su questo io non ho le idee chiare, posso soltanto darvi due o tre spunti di riflessione, perché ognuno se le deve poi chiarire per sé. Allora, io vi propongo tre idee, e poi semmai ci riflettiamo insieme. Però, prima di mettere le tre idee a disposizione, volevo chiedere a voi che cosa di minimo pretendete per poter stare con un'altra persona? Che cosa non può mancare nel vostro amore? La fiducia. Beh, minimo. Tutti d'accordo? Quindi molte coppie devono chiudere la loro storia. Ma non qua, speriamo che vada bene stasera, però, no? Perché ci sono coppie di persone che non si fidano una dell'altra. Questo è un vincolo, va bene, la fiducia. Poi, il rispetto. Però del rispetto è importante. Io ci ho messo un po' di tempo a capirlo. Io sono nato tanti anni fa e a me avevano spiegato che bisogna rispettare le ragazze. Io non avevo mica capito bene cos'era questa cosa di rispettare le ragazze. Ma no, nel senso che... Mi spiegavano che rispettarle vuol dire non toccarle. Ma mica vero. Chi ha detto che quello è il rispetto, no? Allora, rispetto è giustissimo, però dobbiamo sempre tradurlo. Me l'ha spiegato una ragazza, che dopo un po' che non la toccavo mi ha detto, ma hai dei problemi? Io le ho detto, no, ti rispetto. Dice, ma sei scemo forte. Così mi ha rispiegato la cosa in un modo... Tra l'altro mi sembrava molto più carino e più sensato. Vabbè, si tratta di capire questo rispetto, no? Però mettiamo fiducia e rispetto. Poi, ok, siamo unici e diversi, e questo è un problema. Dove andare in vacanza, cosa cucinare la sera, cioè, no, se siamo uguali è facilissimo decidere tutto, ma una noia. Se siamo diversi non si decide nulla, ma è sempre interessante, ci vorrebbe una via di mezzo complicata da trovare, però che siamo unici e diversi, e accettarci, ma forse più che accettarci, desiderarci nella diversità, se c'è la fiducia, perché sennò la diversità ci spaventa, cioè c'è sempre una trappola in mezzo alla diversità, no? Quindi diffidate da chi dice, vai quasi bene, adesso ti cambio un po', così poi diventi come ti voglio io, no? E ti sposo, capite via. Pericolosissimo. Vabbè, quindi fiducia, rispetto, differenza, alterità. Cos'altro mi sembra indispensabile? Condivisione, sì. Affetto, e sì. Complicità, ascolto, volontà di essere, sì, attrazione, cioè attrazione, progetti, intimità, interessi comuni. Sta diventando difficile, eh? Immaginate. Ma è bello, cioè, è per fortuna. Però provate che gioia, ok. Dialogo. Allegria. Posso mettere soltanto una clausola per questo contatto? Non tutte, tutti i giorni, perché si rilascia. Un po', insomma. Perché essere così tutti i giorni, so, un po' complicato. Sincerità. Certo. Nel bene e nel male. No, provate a immaginare una persona seria, rigorosa e rispettosa che dice, senti, io sto bene con te, adesso facciamo questo progetto d'amore. Ma per te cos'è essenziale? Immaginate questo elenco di cose. Lui dice, vabbè, però mi ci fai pensare. E anche a lui, come? Non si dicono, gliele dite un po' per volta. Vabbè. Si costruiscono, cioè. Sì. Beh, sappiamo benissimo che molte di queste cose non sono presenti nelle nostre vite, no, non tutte come le vorremmo, e questo ci dà un po' di dolore, e non per questo ci siamo lasciati, mi spiego. Però ogni tanto una sola o più di queste cose arrivano al confine dell'intollerabile, cioè non lo sappiamo più portare, non lo sappiamo più sostenere, questo modo di essere così diversi, ma anche così distanti, o così ostili, o così inavvicinabili, o così incomprensibili all'altro. E si apre la crisi, quella crisi grave, che poi diventa, qualcuno chiedeva prima, no? Il rischio di non poter più confermare l'alleanza, e non poter più dire siamo due, continuiamo. Dobbiamo togliere. Togliere non vuol dire che le cose che abbiamo detto non sono importanti, però vuol dire che noi possiamo anche stare tutta la vita molto bene con uno non tanto allegro, che se allegro è molto meglio, però possiamo amare anche uno non allegro, o no? Sì, è meglio se è allegro, lo so, però se non lo è, forse lo amiamo lo stesso, no? Più difficile uno non vero, o uno che ci imbroglia, ma ce ne sono tante di nostre amiche e amici che si fanno simpaticamente imbrogliare sistematicamente da loro marito, da loro moglie, e stanno lì lo stesso, perché non mettono questo come criterio fondamentale per starci insieme. È difficile creare una regola generale, ok? Molto difficile. Togliere non vuol dire che una cosa è meno importante di un'altra. Possiamo soltanto immaginare che non sia essenziale allo stesso modo per tutti. Okay. Dopo parecchie parole, non so se questo era un ordine di importanza, uno di voi ha detto attrazione. Su questo conviene riflettere. Una coppia, eterosessuale, omosessuale, non importa, una coppia parte dall'attrazione sessuale per costituirsi come coppia. Questo non vuol dire che quando ci si conosce si parte con l'attrazione sessuale. I cammini sono diversi, si può partire solo da una fascinazione intellettuale. Ma se non c'è attrazione sessuale, non c'è coppia. C'è un altro tipo di società. Tra l'altro non sto dicendo meno bello o di minore importanza o di minor rilevanza, è solo un'altra cosa. Nel senso che ciò che fa una coppia è la sessualità, anche se la sessualità non è sufficiente, però è una condizione necessaria, anche se non sufficiente. Tolta la sessualità dalla coppia, e non sto parlando del coito, no, sono coppie che non hanno il coito, non ce l'hanno più per mille ragioni, ma hanno una sessualità potentissima, meravigliosa, ok? Tolta la sessualità dalla coppia non è più una coppia, è un sodalizio. È una cooperativa, è un... No, diventa un'amicizia, una fraternità, ma sono cose altissime, cioè chi ha deciso che la coppia è la versione più alta delle relazioni umane? Tutto da discutere, no? Il problema è soltanto se lo è o non lo è. Facciamo un discorso molto semplice. Carlotta, la nostra Carlotta cresce, diventa finalmente una... ragazza da marito, si dice una volta, e dopo un po' di ragazzi con cui ha soltanto fatto dei giri a vuoto, che tra l'altro mettevano molto in allarme sua mamma e suo papà, perché erano quei tipi che i genitori fanno un po' paura, trova un ragazzo affidabile, che ha delle caratteristiche importanti, un ragazzo serio, impegnato, con una buona visione della giustizia, del senso etico, ha un lavoro, è benestante, per esempio una farmacia, la famiglia, no, quindi ha una solidità per il futuro, penso a una mia paziente, giovane, in queste condizioni. E la mamma, a questo punto, invece che tenerla lontano, come faceva con tutti gli altri, una speranza che si vada dai piedi il prima possibile, cerca invece di portarlo, lo invita, ma dice, perché devi invitare? Ah, perché non è tuo ragazzo, dai, ci fa piacere, no? È come un figlio. Lei dice, roba strana. Comunque, e poi crea un legame, no? Che poi questo ragazzo è proprio legato anche a alla mamma di lei, al papà di lei, no? Ma vedete, ma cosa c'è di più bello? Un piccolo problema. Una sera lei va dalla mamma e le dice, senti, io sono molto disperata perché ho dei problemi con Luigi. Dai, adesso hai dei problemi con Luigi? No? Era sistemata, cioè... Vabbè, ma si risolvono, Non so, vi manca qualcosa, vi mancano dei soldi, ci siamo. Ci guarda, no, il problema è, non so come dirtelo. Non è attento a te? No, no, attentissimo, anzi, persino noioso. E allora, cosa c'è che non va? È che non mi sento attratta da lui. Come mi sento attratta da lui? Ma te lo sei scelto tu, no? Se l'hai scelto ti sarebbe piaciuto, no? Adesso sembra il momento, no? E dice, dici, vero? Altro che essere ricco, no? Ma stai tranquilla, vedrai che poi sono momenti di una donna. Poi dopo lei torna e dice, ma io sono preoccupata perché non mi piace. Come non ti piace? Vabbè, insomma, dice, no, guarda, te lo dico in un modo forse un po' duro, ma a me non piace fare sesso con lui. Accidenti, vuoi parlarne con qualcuno, insomma, la manda in giro a parlarne con qualcheduno e poi le tira fuori una teoria, dice, ma guarda, queste cose capitano a volte prima del matrimonio, ma vedrai che il matrimonio aggiusta tutto, quindi tu fidati. E sapete che non è vero, il matrimonio finisce di sciupare ciò che era partito male, semmai. Carlotta si sposa e inizia la sua tragedia, che si compie quando invece un altro ragazzo, onesto, intelligente, in gamba, magari un po' meno ricco, ma non importa, non è quello che lei cercava, le piace davvero ed è turbatissima, si è sposata da 2 anni e non sa più cosa fare. Non sa cosa fare, doveva essere aiutata. La mamma l'ha confusa, perché la mamma non voleva perdere non un'occasione alla farmacia, non voleva perdere un'occasione di uno che avrebbe rispettato sua figlia, e altro che se era rispettoso. Lui tra l'altro la adorava Carlotta, però non vuol dire, cioè, non vi interessa anche se uno vi ama tantissimo, deve piacervi. E si sono dimenticati tutti di una cosa fondamentale, che l'amore in una coppia è incarnato, deve piacermi l'odore di quella persona, deve piacermi la pelle di quella persona. Il test va fatto sul corpo, ok? E se non ci posso stare, non ci sto. E non ci sono cose che me lo faranno piacere, sì, la mente, forse un ragionamento, forse uno sforzo, forse una fatica, mi spiego, ma non posso partire così. Portando all'estremo questo discorso, Carlotta ha fatto un matrimonio per finta, cioè non ha tenuto conto di un elemento essenziale del matrimonio e quindi ha fatto un contratto nullo, ok? Perché sapeva di non essere sessualmente attratta dal suo compagno e nonostante questo ha fatto finta di nulla e lo ha sposato. Io sono perito del giudice del tribunale della ecclesiastico, è vero, tante storie così. Poi è molto complicato sostenere che sono matrimoni nulli, però nella sostanza sì, sono matrimoni nulli, che manca una cosa essenziale, non una cosa importante, essenziale. Allora questo nella testa dei ragazzi non è chiarissimo, ci sono oggi ogni 10 coppie almeno 2 che sessualmente non vanno d'accordo e non hanno problemi sessuali, basta andare dal sessuologo a volte per risolvere quei problemi, proprio non vanno d'accordo, non si piacciono, eppure si sposeranno o andranno a vivere insieme e faranno vite devastanti. Questo dobbiamo farglielo sapere, dobbiamo farglielo sapere in tutti i modi possibili, ok? E i corsi matrimoniali, prematrimoniali, dovrebbero intercettare queste situazioni e pregare gli sposi di non sposarsi fino a quando non hanno chiarito questo problema. Non è che glielo si proibisce, e si dice: ragazzi, siete davanti a un serissimo problema, state sciupando un sacramento, perché è un sacramento particolare, un sacramento che si fa con le mani, con la bocca, è incarnato, non è un sacramento che si fa con ragionamento o con l'anima. L'anima degli sposi deve stare abbracciata al corpo di un altro, se non funziona, okay. E questo non sempre fatto con chiarezza. Questo è un punto. Siete d'accordo oppure no? Lo direste oppure no? Insistereste oppure no? Scoraggereste oppure no? Se mio figlio, ma se voi siete, non lo so, sposi che vanno a parlare a fidanzati, è la loro ultima occasione, insomma, più o meno, o no? Come? Sì. Per tanto, loro dicono, e se poi ci sarà, aspettate, se ci sarà, no? Ma, sì, è probabilissimo, no? È chiaro questo nelle nostre proposte? Diffusissimo, sì. È un problema diffuso. Ma, allora, gente che si sposa con uno o con una che gli fanno schifo, non ce ne sono quasi, ok? Cioè, ci sono persone che proprio da 2 metri... in poi ti parlo, se ti avvicini mi dai proprio fisicamente fastidio, sono sensazioni così completamente irragionevoli, ma ci sono, vi allontanate, okay? No, questo è difficile che capiti, io ne ho visti, però perché io faccio un mestieraccio dove arriva proprio il massimo della difficoltà, ok? Mentre invece è molto frequente che ci sia un'attrazione debolissima, che non ha niente a che fare col desiderio fisico dell'altro, ma che si basa su una cosa molto semplice. Se uno mi diventa familiare, dopo un po' me lo tengo anche vicino. E se uno mi accarezza bene una sera, dopo un po' mi fa anche piacere. Mi spiego, se io prendo questi deboli segnali, è lì, perché devo mandarlo lontano? Mi tocca, vabbè, sento piacere, quindi vuol dire che mi piace. No. Quindi vuol dire che funzioni. No, che messa vicino a uno che non ti fa schifo, dopo un po' qualcosa senti. Per carità, ma cosa volevi fare stasera? In effetti volevo andare al cinema. Perché vuoi andare al cinema? Tutte le perché vuoi andare a cena con le amiche? No? Ecco, no, non mi viene da cercarlo. Ok? Ma poi se si avvicina va bene? Ma sì, se si avvicina va bene. Ma funzioni? Sì, ho l'orgasmo, certo. Questo è diffusissimo. Ed è un danno terribile. Una volta le cose funzionavano in un altro modo, non migliore, funzionavano solo in un altro modo. Dopo il matrimonio Carlotta tornava dalla mamma, la mamma gli diceva adesso te lo tieni, zitta, e va avanti, mi spiego. Adesso invece si separano, punto. Ma il fatto che si separino su quella situazione è ragionevole, il problema è perché si sono sposati. Non c'è il sostegno della comunità. Ci sono anche altre cose. Immaginate una ragazza, perché i ragazzi invece va bene, una ragazza che vuole trovare uno che le piace. Che cosa fa? Lo cerca su internet? No, è pericoloso. Ok? E allora ne frequenta un po'. Dopo un po' che frequenta gente, comincia a sentirsi dire dalla mamma o dalle amiche, certo che sei una bella mignotta. Mi spiego? Fermati. No, prenditene uno e starci insieme. Ok? E si sente anche in colpa. Stava semplicemente facendo onestamente una scansione, un contesto, sta cercando di capire. Ma come si fa se no? Cioè, se non fate almeno un paragone, no? Tra prenderne per mano uno e prenderne per mano un altro, no? Allora, forse sarebbe carino non fare tutto con tutti, perché non ce n'è nessun bisogno, cioè il problema non è l'erezione, non è l'orgasmo, quelli sono problemi accessori che tra l'altro sono i più risolvibili. Il problema è veramente che effetto ti fa prendertelo per mano, che effetto ti fa mescolarti con lui, che effetto ti fa respirare il suo respiro, cioè deve essere una roba fantastica. Se ti dà fastidio, un po' asettico senza fare troppe storie, lo fai anche entrare dentro di te, però non è che ti piace. E quindi non c'è bisogno di fare tante esperienze che ci prendono tutto il senso dell'esperienza, però andarci vicini, uscirci, provarci, raccontarsi, giocare un po', sì. E però fanno la figura dei cattivi ragazzi. I ragazzi no, me. Vabbè, c'è un po' di maschilismo in questo, no? Un ragazzo che ha tante ragazze e poi finalmente ne sposa una fa una cosa normale. Una ragazza che ha tanti ragazzi e poi finalmente ne sposa uno non va tanto bene, ok? Però non è la storia giusta questa, cioè sono due persone, devono fare una scelta difficile, devono incontrarsi e secondo me noi non li sosteniamo abbastanza su questa idea, che è molto semplice, deve piacerti tanto. Come? Sì. Ognuno, sì, poi chi le sente nello stomaco, girano, no? Però, insomma, l'importante è sentirle, sì. Sì. Vabbè, non so, vedo perplessità, perché sembra una specie di istigazione delinquere fatto così il discorso, no? Però è molto peggio un matrimonio rovinato con dei figli che patiscono la separazione dei genitori, cioè... la giusta misura non ce l'hanno i ragazzi, la troveranno, no? Quindi più che altro è come proteggerli dai rischi eccessivi, perché purtroppo sì, tante volte non si sanno proteggere. La misura non è tanto quella che loro useranno, qualcuno anche, ma sono già gente strana quelli che usano la misura a 15 anni. A 15 anni si è fuori misura. Praticamente su tutto perché si sta cercando la misura. Però è molto importante avere qualcuno che ce ne mostra una. Così poi noi troviamo la nostra. E quindi sì, provare a proporre la misura è importante. Sapendo che non la useranno. Però proporla sì. Ecco, proviamo. A 12 anni... Se fanno l'amore a 12 anni? No, no, no, no e basta. Ok? Vanno protetti e basta. Ok? Sia per delle ragioni fisiche che psichiche. Cioè, non sono pronti per fare quel tipo di esperienza. Voi dite, ovvio, no, perché ci sono troppi che lo fanno. 12 anni, sì. Troppi. L'età non si è abbassata tanto, continua a oscillare, sale e scende l'età media del primo rapporto sessuale. Ma un gruppo nutrito di giovanissimi c'è sempre stato e continua a esserci. Ok? E quindi no. Cioè, guardati a vista e protetti da se stessi, perché si fanno male. Un po' al corpo e tanto all'anima. Ok? Continua a oscillare. Siamo... tra i 17 e i 18 anni, in questo periodo, era tra i 16 e i 17, 10 anni fa. Continua a oscillare molto. Forse perché le statistiche sono piene di errori di misura, banalmente, ok? O forse perché oscilla proprio a delle sue tendenze. I sociologi continuano a ragionarci su, io non ho mai letto una cosa illuminante, quindi ognuno ci mette su un po' di teorie. Ma insomma, oscilla abbastanza. Quindi l'età media è abbastanza alta. Per fare quella media lì ci sono dodicenni, tredicenni che noi dobbiamo proteggere. Quando è l'età giusta? La misura? Beh, la misura è anche biologica, è un problema di sviluppo del corpo e della mente. Ricordate quel dover mettere insieme parti di sé che non sono ancora pronte a essere messe insieme. Quindi li proteggiamo dicendogli no, te lo proibisco, non puoi farlo. E gli dobbiamo stare dietro. Sì, c'è bisogno di seguire. So che poi qualcuno fa lo stesso, no? Però devono sentirsi molto protetti. Ma perché stanno meglio se... Cioè, a voi ne dicono di tutti i colori, però stanno molto meglio se rischiano così tanto e sono protetti, perché se non sono protetti sono nello sconforto e nella confusione totale. Per trovare la misura forse converrebbe smontare un'altra idea. Noi stiamo facendo questo ragionamento. Stiamo dicendo cosa è essenziale per costruire una coppia e stiamo dicendo è essenziale che ci sia attrazione sessuale, le farfalle nello stomaco, qualcosa di chiaro, sentito in modo forte e chiaro. E poi abbiamo detto per sentirlo bisogna fare delle prove e per fare delle prove bisogna rischiare, ma c'è una misura per rischiare? Per esempio l'età è una misura, sotto una certa età no. Una misura facile quella, ma poi man mano che l'età avanza diventa molto complicato. Se noi facessimo la media del nostro primo rapporto sessuale o della prima volta che siamo stati a fare sesso davvero, non un bacetto, no? Vedremmo che le nostre storie sono tanto diverse l'una dalle altre, ok? E quindi che la media viene fuori, ma perché c'è una grossa dispersione intorno alla media. Qualcuno di noi l'ha fatto molto presto, qualcuno di noi l'ha fatto molto tardi rispetto alla media. E alla fine sembra che tutti più o meno abbiamo fatto la stessa cosa, no? E quindi, vabbè, se qualcuno di noi avesse fatto sesso a 12 anni sarebbe stato violato e abusato da qualcun altro. E quindi adesso avrebbe delle memorie addosso difficili da usare. In altre culture si fa così e basta, no? Per cui la comunità dice, è giusto, no? Le spose bambine, ma forse sono culture che possono anche confrontarsi con altre e provare a dare un po' più di fiato, un po' più di spazio a queste bambine. No. E poi stiamo dicendo, ma allora che misura diamo? Ecco, per dare questa misura forse ci conviene smontare il concetto di cos'è fare l'amore. Perché fare l'amore a cortocircuito è due nudi, un po' di preliminari, penetrazione, coito e due orgasmi, se va bene. Uno. Va bene? Questo è uno dei tanti modi possibili per fare l'amore. Allora, se una coppia in prova, perché fidanzamento vuol dire mettersi in prova, per capire, non può fare l'amore, non capirà mai che cosa sta per succedere nel matrimonio, ok? Per cui tutte le coppie devono poter fare l'amore. Parlo di coppie impegnate su un progetto, no? O almeno bisogna poter fare sesso senza farsi del male per capire se avviare il progetto. Ma noi potremmo dare valore a comportamenti che sono comunque a tutti gli effetti fare l'amore senza che coincidano con la penetrazione del coito. Potremmo metterci dei confini che ci riparano e che ci permettono poi di arrivare a un essere più esposti con l'altro e con noi stessi attraverso un percorso. Poi qualcuno, essendo fedele ai principi che lo hanno guidato e illuminato, dirà, beh, questo lo faccio dopo che ci siamo sposati. Qualcun altro, sempre tentando di essere fedele a quei principi, dirà, ma lo facciamo anche prima, tanto è come fossimo già sposati, che è una versione usatissima, ok? Va bene? Oppure, io non ho affatto questi principi e questi valori, però non c'è bisogno di essere religiosi o professare una fede per proteggersi e per proteggere l'altro. Allo stesso modo uno può dire, vabbè, lo facciamo quando siamo arrivati all'idea di farlo, però non partiamo essendoci completamente esposti su tutto e diamoci i nostri tempi. Per noi sarà quando andiamo a vivere insieme, o sarà quando ci fidiamo abbastanza l'uno dell'altro, o quando ci sentiamo che non siamo pericolosi l'uno dell'altro. Vabbè, ognuno ha i suoi punti di vista. Si possono usare in modi diversi, con segni, simboli, valori diversi, ma proteggere se stessi e proteggere l'altro da noi è sempre un valore umano, trasversale a tutte le forme di fede, di religione e di sistemi, eccetera, no? Questo potremmo tentare di proporlo. Il risultato, credetemi, non è che non lo faranno, è che facendolo sanno che stanno valicando un confine, e questo dà senso a ciò che stanno facendo, ok? Un confine che avevano tentato di usare, ma la passione li ha travolto. Ma benissimo, benissimo, però a volte non tanto, insomma, dipende da che storia è, da cosa succede. Però avere un confine da valicare è l'essenziale, non averlo è il disastro, perché sono allo sbando, sono in balia. Allora, una proposta laica, che vada bene per chi crede e chi non crede, per chi vede l'amore come il volto di Dio e per chi vede l'amore come l'espressione biologica di una condizione umana. Va bene, siamo tutti a provarci, ognuno a modo suo. Ma una testimonianza, una proposta trasversale dovremmo averla a disposizione, no? Che aspetta a sovraesporti, aspetta a spenderti così tanto, ma fai già sesso, fai già l'amore. E cerca di capire se potrai portare avanti un progetto che si chiama coppia incarnata nella sua sessualità. Questo non è chiarissimo, non lo so. Forse per noi sì, ma i ragazzi sono confusissimi. Potrebbe essere un tipo di proposta. Non è una proposta di controllo sulle loro vite, tanto sfuggono. Siamo sfuggiti ai nostri genitori, sfuggeranno loro a noi, credo, no? In qualche modo. E questo più o meno è la storia che procede. Però hanno qualche cosa con cui confrontarsi. Mettiamo voce a questo silenzio. Cosa ci stiamo dicendo? Mettiamo che Carlotta si sia sposata e abbia avuto dei figli. E cosa potrà dire a questi figli? Prendo da fare attenzione da quella del fatto che lei ha avuto. Okay. Quindi parliamo della Carlotta che abbiamo descritto prima. Sì. Questo è un altro problema, ma ai figli dirà le cose migliori, però mancherà la testimonianza di questa cosa migliore. E quindi sì, è molto bello il tuo pensiero, perché è il pensiero che va oltre a ciò che noi diciamo, ma a ciò che possiamo far sapere, testimoniare. I figli prendono quello che gli possiamo dare. Non è questo il punto. Il problema è, fin quando possiamo preparare qualcosa per i nostri figli, proviamo a prepararlo meglio che sappiamo, e poi useranno quello che noi gli possiamo dare. E quindi un buon pensiero è già un regalo, una buona testimonianza con un buon pensiero li rassicura di più. Insomma, facciamo quel che possiamo. Io mi sto preoccupando di quando sono prima dell'avere i figli e prima dell'essere sposati, e dopo facciamo quel che possiamo. Cerchiamo di farlo meglio che possiamo. Prego. Sì, succede spesso che si prendano in giro l'uno con l'altro se non l'hanno ancora fatto. Quindi c'è una forte pressione intragruppo che spinge in questa direzione, sì. Togliti la verginità, ce l'hai ancora. No, come se fosse, insomma, un problema da superare, una cosa da togliere, eccetera. Sì, questo nei gruppi pesa, non tutti lo sentono così opprimente, così pesante. Qualcuno semplicemente continua per la sua strada, ma ci sono parecchi che hanno i primi rapporti sessuali indotti dal contesto. Questo probabilmente è sempre stato, poi andando indietro è molto difficile leggere, ma se prendete la letteratura questo c'è, ed è scritto anche da letterature antiche, cioè andiamo indietro di 2000 anni e troviamo già questa pressione sociale sulla sessualità, nelle forme diverse, insomma, secondo gli usi, i costumi, i mores, no? Di quei gruppi. E anche qui, se i gruppi sono solo di pari, girano a volte in cortocircuito su di loro. Se nei gruppi c'è chi li anima, no? E chi li fa riflettere, chi ogni tanto dice una voce in controtendenza, chi fa il controcanto, ma non contro di loro, ma semplicemente perché non sia monocorde quel racconto, hanno qualche possibilità in più. Cioè, se io sono solo con me stesso e voglio aspettare, e tutti mi dicono, ma scemo, cosa aspetti? Faccio più fatica che se c'è qualcun altro che dice, però aspettare può avere senso. Dico, dai, appoggio un po' della mia voglia di aspettare a quella cosa che ho sentito, che può avere senso. Se uno mi dice, devi aspettare, mi dà già fastidio, non va bene. Ma se mi dice, può avere senso, forse prendo più coraggio. Forse. Sì che possiamo aiutarli tanto. Dobbiamo toglierci dalla testa che noi possiamo decidere per loro e possiamo controllarli. Da una certa età in poi il controllo è limitato a cose essenziali, sostanzialmente la loro sopravvivenza, insomma. E lo facciamo, no? E lì possiamo soltanto fare un po' lievito nella pasta ancora, no? E dobbiamo metterci dentro dove ci prendono, tra l'altro non più tanto i genitori appunto fanno da testimoni finché possono, fin dove possono, raccontano. Mostrano strade percorribili, ma il vero lievito nella pasta sono fuori dalla famiglia, cioè sono i pari, la comunità, sono i luoghi dove si fa gruppo, sono le appartenenze sono modi fondamentali per diventare se stessi, e l'appartenenza con la propria famiglia viene messa in crisi biologicamente, no? Cioè a un certo punto non mi basta più essere di questa famiglia, io voglio un'altra appartenenza, poi le recupererò tutte e due, cioè sentirò che tanto la mia famiglia ce l'ho dentro di me, è incorporata la mia famiglia, però devo andare fuori, e fuori senza appartenenza è terribile. La coppia è una bella appartenenza, ma il gruppo è un'appartenenza fondamentale, e possibilmente un gruppo, non una banda, perché le bande a volte ci portano lontano. E noi adulti possiamo favorire la presenza dei gruppi, e possiamo prendere persone che sono in una fase di transizione, che non sono vecchi per loro, ma non sono esattamente nello stesso momento della vita, e possono stare con loro e cercare con loro, più che dirgli come fare. Questo sì, questo ci tocca farlo, ed è molto in dispersione. Cioè, ci sono fortunatamente ancora delle agenzie educative che sono fatte così, ma prendete la scuola con i suoi programmi. La scuola con i suoi programmi è terribile. Cioè, per certi ragazzi è l'unico luogo al mondo dove si può fare un discorso. Glielo facciamo confezionato, deve imparare quello che sta nel programma. È un'occasione troppo grande perduta, no? Se hanno altre cose, la scuola può svolgere quella funzione di costruire la cultura, ma se non ce le hanno, la scuola sta prendendo una pessima piega dalla materna all'università, io faccio l'insegnante, ma è duro fare l'insegnante nella scuola come è organizzata oggi. Beh, poi ci si fa lo stesso. Credo che vi rimanga del turbamento e questo potrebbe essere un buon risultato della nostra fatica serale. No, nel senso che qui non siamo a prendere decisioni per risolvere i problemi, qui siamo a confrontarci. Allora, se nel piano, nel progetto educativo c'è, è indispensabile portare i ragazzi, i fidanzati, gli sposi al confronto con la loro sessualità, ma non genericamente, proprio lì in mezzo al discorso, dove il discorso è carne, respiro e sangue palpitante, poi i modi li troveremo, ma questo potrebbe essere un punto per aiutarmi. Metterei un secondo criterio, un secondo paletto, ma semplicissimo, disatteso ancora più del sesso, che è star bene insieme. Un po' bene insieme, non tanto bene insieme, star bene insieme. Okay. A voi sembra così ovvio, ma non è vero che le coppie sono fatte da persone che stanno bene insieme. Prendete piccoli istanti, perché sennò sembra un discorso troppo generale. Vi siete preparate o preparati con una certa attenzione, come volevate vestirvi, presentarvi al vostro amore, chiunque esso fosse. Lui suona da sotto e voi uscite di casa, ciao mamma, e scendete le scale. Prendete quel tratto da quando avete salutato la mamma e siete lanciati nel mondo a quando salite in moto, incamminate con lui o con lei. Provate a vedere cosa c'è in quelle scale che fate, in tutti quei gradini che scendete. Quante volte una ragazza pensa, speriamo che stasera vada bene, e insiste per farlo andare bene, e andrà male. Poi ogni tanto va bene, cioè, vedi che meritava insistere, vedi la forza dell'amore, vedi, ho pregato e adesso. E magari, sì, magari è vero, magari la preghiera è stata un vero aiuto, però... Magari uno dei trucchi micidiali che usa lui. 8 serate incasinate e 2 random, cioè distribuite un po' a caso, fantastiche. Che è un modo per tenere legata a lei. Che continua a pensare che forse deve impegnarsi di più, che forse deve cambiarlo un po'. Però, le piace. La questione non è il sesso, lui è uno strafigo, gli piace da morire. Okay? Tanto che fa sesso anche quando è arrabbiato. Ok? Quello funziona perfettamente in lei, però è una tragedia e lei è dentro una manipolazione continua e continua a uscire con lei, continua a tornare a casa e a piangere, sua mamma continua a sentirla piangere, dice perché continua a stare con lui e lei dice ci devo riuscire. Sono tante le ragazze conciate così. E questo sarebbe un criterio che tradotto vuol dire fiducia, rispetto, attenzione. Gioia, sensibilità, cioè, vedete tutte le parole che avete detto, che poi spaventano un po' se le dite tutte insieme, no? Per questo dice, andiamo un po' in diluizione, no? Però messe dentro a un'esperienza vuol dire, io ho voglia di uscire con te, è il momento più bello della giornata, l'ho desiderato da stamattina, può anche andare male, ogni tanto litighiamo, ma io ho voglia di uscire con te, mi spiego? E in molte coppie non è così. Questa è una variante, cioè invece la noia mortale di certe serate, no? la tristezza, l'angoscia, no? Ecco, che magari non è sentirsi maltrattati, però è lo stesso. Voi dite, vabbè, ma ci sono problemi, magari ci fossero problemi, no? Così c'è il dolore speso bene. Non c'è niente. Va tutto bene, ma stanno male insieme, punto. Mi spiego? E il sesso funziona. Quindi fanno sesso, in quel momento sembra tutto sesso e non fare l'amore, perché l'amore c'è. Sono brandelli d'amore, ma è un'altra roba, ok? Però il sesso funziona e confonde. Però poi quando ci vado a letto sto bene. Ecco, quindi, secondo criterio, starci bene insieme. Se voi dite questo a una quinta istituto tecnico, mi vedete sconvolti. Cioè, subito vi dico, è ovvio, per esempio, va bene. Allora per le cane cosa pensi? Così. No? Dice, no, perché... E se fate questi due discorsi uno in fila all'altro, il sesso ti deve piacere, e poi ci devi star bene, poi magari va tutto male il matrimonio, però almeno ci sono due punti di partenza, cioè due fondamenti. Finisce che si arrabbiano. Cioè, vi dicono smettete di dire queste cose, siete vecchi, lasciateci vivere le cose così come ci vengono. E dico, magari vi venissero bene, vivetevele, ma insomma vi vengono pure male. Non è ovvio star bene con un ragazzo, star bene con una ragazza. Okay? Mentre non sto parlando di tutti, però la quota di persone sofferenti è troppo alta, non sono una coppia ogni 100, sono 3-4 ogni 10. Del resto basta sentire, no? I vostri amici sono tutte coppie felici? No. Se fate un campione voi, statistico, no? Prendetene 10-20, vedete quanti sono quelli felici. Felici non vuol dire che ridono tutti i giorni, no? Felici vuol dire che ha senso quello che stanno facendo insieme. Va bene. Terza cosa, terzo paletto. No? Così, confine. Mica semplice da usare. Un sistema di valori compatibile. Uguale è questione di fortuna. Ma forse nemmeno, perché poi avere i valori uguali a volte mette in competizione chi è più bravo, chi è più virtuoso, chi è meglio riuscito, eccetera. Non è detto che sia questa la via. Compatibile. Perché la vita è micidiale, cioè provate prima di sposarvi a farvi due o tre domande del tipo. Se per caso il tuo babbo sviluppa una malattia di Alzheimer, che idea hai? Beh, finché c'è la mamma. E se poi la mamma non c'è più, cosa facciamo del babbo? Che è già detta così, no? Sarebbe cosa facciamo col babbo, invece cosa facciamo del babbo. Vabbè, però la frase viene così, eh? Viene cosa facciamo del babbo. Cioè, a 45 anni una crisi dolorosissima, a volte insanabile. Se abbiamo un sistema di valori compatibile, poi magari non sappiamo che fare col babbo lo stesso, e stiamo male lo stesso, ma abbiamo un sistema di ancoraggio, no? Diciamo, vabbè, almeno tutti e due stiamo cercando di tener fede a. Poi a me viene un po' meno, a te viene un po' di più, certo, tuo papà, eccetera, no? Vabbè, queste sono le cose della vita, però senza mai un sistema di valori comune è terribile. E c'è, adesso perdiamo tempo, però c'è un elenco di cose che nella vita molto probabilmente capiteranno, e che quando uno si mette insieme non ha in mente che capiteranno, no? E bisognerebbe che ci si potesse fermare, magari in gruppo, e parlarne. Cioè, quando capita che si fa? E ci confrontiamo sui valori, no? I valori sono poi soltanto le guide per le nostre scelte, cioè ci aiutano a orientarci. Non valori uguali, assolutamente no, però resi compatibili. Quindi un ateo può avere valori compatibili con una persona molto religiosa, un musulmano può avere valori molto compatibili con un cattolico. Boh, insomma, non è uno di destra può fare bene l'amore con uno di sinistra. Oggi poi, insomma, non ci sono più problemi, no. Quindi va tutto bene. No, perché tutto sommato sono valori compatibili. Okay. Però dov'è che sono compatibili? Questo bisognerebbe chiederselo prima. Sarebbe il fondamento del progetto, come dire, voglio comprare una casa, ho i soldi, ma non importa, io tanto compro. Domandati con che cosa la sosterrai questa casa. No? Io voglio fare una coppia, domandati con quali scelte ti toglierai dai guai, volta per volta. Con un accessorio, che secondo me non è fondamentale, però un accessorio sì. Allora, sarebbe molto carino avere interessi comuni, ma anche lì, andate a trovare uno che vi piace, ha valori condivisi, con cui si sta bene insieme, e gli piacciono anche le stesse cose, ne perdete troppi e dopo un po' su qualcosa dobbiamo fare un compromesso. Però, curiosità. Fammi capire perché ti piace così tanto quella cosa. io vengo, tu mi porti e me la presenti, va bene? Non il muro contro muro. Quindi due persone che non hanno interessi comuni, ma sono molto curiose, si possono lasciare incantare da una cosa che non hanno mai trovato interessante, perché la guardano con gli occhi del loro amore. E incominciano a farsela un po' familiare, a farsela un po' piacere. Non tutte, due, tre, basta. Ok? Per cui l'ideale sarebbe un po' di interessi comuni, ma quando non ci sono, curiosità. L'alterità, no? Cioè, l'altro è un'occasione per me, proprio perché è diverso da me e non gli piacciono le stesse cose. Ok? Solo che l'alterità a volte è ciò da cui io mi difendo. E quindi o andiamo d'accordo sulle cose, oppure lui è un nemico, lei è un nemico. E poi un racconto, ma questo più che un criterio è uno strumento, è l'unico strumento perché un amore sia vivo, dobbiamo potercelo raccontare, con le parole anche, non è un problema, ma dobbiamo farcelo sapere, perché la morte degli amori è l'implicito. Certo che ti amo se sono qua, puoi essere qua per mille ragioni. Anche perché mi ami, però tu fammi sapere l'amore, non che sei qua. Mi spiego? E se faccio la spesa tutti i giorni vuoi che non ti ami? Anche no. Però fammi sapere che mi ami. Mi spiego? In qualunque modo. Ok? Quindi il racconto che è fatto sicuramente di parole, di cose che ci diciamo l'uno e dell'altro, ma di modi di essere con l'altro che dicono di questo amore. No, non funziona. Va in dispersione. L'implicito non regge. Ok? L'amore è più di segni. No? Qualunque natura, ma bisogna di segni, e di segni il più possibile quotidiani, minime cose, minime attenzioni che sono speciali, che non ho per tutti, cioè che ho per te e con te in quel modo. Avete detto parole molto più belle, no? Tutte quelle che avete detto sono molto più forti, molto migliori, molto più centrate. Questo è un discorso, se volete, più pratico, perché porta criteri. Ma se fossimo in grado di tenere alla sufficienza l'attrazione sessuale, pelle, odore, lo star bene insieme, rendere compatibili i nostri sistemi di valori e l'interessarci alla differenza, quindi all'alterità, con disponibilità e curiosità, boh, poi non è detto che vada bene un matrimonio, una storia di coppia, però ci sono dei buoni fondamenti, insomma ci sono forse le cose essenziali. Fate un'inchiesta, provate a chiedere ai ragazzi quali sono le cose per loro essenziali e vedete se queste cose compaiono sempre, regolarmente, spesso no. E stanno giocando la vita, Sui modi ognuno come gli piace. Non è davvero un problema. Adesso qualcuno di noi è triste, lo so. Non è una bella serata, però forse anche i nostri dolori possono servire, perché noi possiamo dire comunque io l'amore lo sto portando avanti con fatica. Ti racconto che fatiche ti puoi risparmiare, perché così magari ne prendi un'altra parte che io non ho avuto. Ma non voi ai vostri figli, no. Noi ai figli degli altri. Cioè, mettiamoci a disposizione come comunità. Non possiamo stare così nel nostro racconto con papà, con mamma e consegnare ai nostri figli, non ne siamo capaci, no? E lo diciamo, le cose belle, testimoniamo le fatiche, e ogni tanto anche il fallimento della nostra relazione, e quindi cerchiamo di testimoniare il loro amore per loro, anche se non c'è più il nostro amore tra di noi. Okay? Però invece raccontiamo ai figli degli altri, facciamoglielo sapere. Io insisto molto sulla comunità, l'educazione sessuale è un fatto comunitario, non è un rapporto tra un adulto e un bambino, anche. Ma non ce la facciamo da soli, ma neanche come famiglia, come singola famiglia. Dobbiamo proprio pensarla insieme. Siccome sono preoccupato, volevo chiedervi soltanto adesso uno stato d'animo. Ci siamo detti delle cose, abbiamo fatto dei pensieri, voi ci riflettete su. Ovviamente non tanto per voi, ma perché siamo qua per restituirli ai ragazzi, quindi ha senso, non ha senso, che ne facciamo, che non ne facciamo. Però volevo soltanto chiedervi, questo discorso, di che umore vi mette? Fatto così. Di che umore? Sere. Preoccupata. Ansia. Sì. E non posso misurare. Però lo dici di buon umore, eh? Siamo alla parte razionale che è turbata, ma quella non importa. No, è un discorso difficile, però deve essere fatto di buon umore, e mi sembra che a te va bene. No, cioè dobbiamo portarlo come un discorso leggero. Mi piace, ci sto bene, un po' la penso come lui sulle cose importanti, è un tipo interessante. Ce l'abbiamo fatta. Questa è l'essenza del discorso. No, si capiva da come lo dicevi. Vabbè. Ok? Parole semplici, però dietro dobbiamo potercele argomentare prima noi e poi argomentarle. No? Allora, l'applauso liberatorio, grazie a te, è un po' il senso, no, della nostra discussione, che poi sì è complessa, perché quando qualcuno fa fatica su uno di questi punti dobbiamo essere pronti a stargli accanto, insomma, a riconoscerlo con lui e a dire, dai, è normale che possa non andare bene, ma sei in tempo, stiamo insieme. Come comunità ce la facciamo. Sì, sì. Aspetta che ti porto il microfono. È una curiosità pratica, proprio da genitore, perché mi è capitato in questo periodo di frequentare una ragazzina di terza media che adesso fa prima superiore. E già l'anno scorso portava il suo ragazzo in casa con i genitori, sono andati in ferie insieme con i genitori, e a me è venuto male pensando alle mie esperienze passate, dove comunque a quell'età lì non si poteva proprio parlare di moroso in casa, sono molto combattuta, perché dico, da un lato mi sembra più positiva la mia idea del dire, mamma mia che noioso portare già il ragazzo a casa ed essere già tutti così insieme, dall'altro invece dico, se mia figlia vorrà fare una cosa del genere è una cosa che devo appoggiare al giorno d'oggi, che comunque non sappiamo che fine fanno, insomma, le compagnie che hanno o no? Non lo so, è difficile. No, una cosa forse la possiamo condividere, però non lo so davvero, perché dipende tantissimo dalle persone, no? Cioè, sono persone che stanno bene a casa, persone che invece devono avere un po' più di movimento e non ficcarsi troppo lì a pranzo tutte le domeniche, però... Sì, ma è chiaro, terza media. Allora, l'unica cosa su cui potremmo cercare di accordarci è che devi dare un confine. Senza un confine, sia star troppo vicini che star troppo lontani, diventa illeggibile, incomprensibile e vanno molto a caso. Cioè si lasciano tirare da sensazioni invece che da un tentativo di stare in un progetto. Lo valicherà o starà troppo arretrata? Questo non lo so. E non lo sapremo fin quando non accadrà. Mi spiego, però diamo dei confini all'esperienza. Senza confini si sta male. Ok? La libertà la possiamo usare bene soltanto se ha i suoi vincoli. La libertà senza vincoli è angoscia pura. E allora, per non decidere, lasciamo troppo spazio. Oppure, per controllare, accentriamo tutto lo spazio. Sono posizioni a rischio, però poi magari per quella persona vanno bene, per questo non mi sento di rispondere. Però diamo dei confini, senza confini tutti stiamo male e i ragazzi ancora di più, perché non hanno neanche confini interni tanto precisi, cioè stanno proprio cercando di capire. Del tempo passato i confini, è bene ricordarli, c'erano troppi, erano sempre in fuga e va bene. Del tempo presente la grande libertà è una buona notizia, però è pericolosa, ci sta esponendo. Ma la mia preoccupazione non è tanto al che cosa faranno di male, ma è la confusione che c'è nella troppa libertà. Poi se la prendono, ma quella è un'altra storia. Adesso dovremmo fare una pausa, non so, come facciamo? Siamo andati troppo avanti, non mi avete... Sì, volete fare la pausa oppure? No. Allora, ritornando un po' indietro nel discorso, quando lei parlando della sessualità ha detto che comunque il fattore di dimostrare la sessualità del gruppo, che comunque è una cosa antica che arriva da lontano, della nostra storia. Ecco, io mi è venuta questa domanda, perché la sessualità deve essere sempre così dimostrata? Cioè nel senso, una volta si metteva il lenzuolo fuori per dimostrare che si era vergini, oppure il fattore appunto di sei omosessuale, sei eterosessuale, hai quelle abitudini, hai quelle... Perché? Allora, di nuovo grazie. Una risposta esatta non credo proprio di averla, però nella parte in cui io, diciamo, ho studiato di più, che è la parte, diciamo, della psicologia di ciascuno di noi, essendo io più ignorante dell'aspetto sociologico, dove ci sono altri colleghi che ne sanno molto più di me. Per quella parte lì, queste dimostrazioni, questi segni, anche molto conclamati e molto evidenti, sono importanti e qualche volta addirittura essenziali per costruire e consolidare la propria identità. Nel senso che noi abbiamo un problema che ci fa diversi da tutte le altre forme di vita, che come tutti dobbiamo sopravvivere, riprodurci e costruire relazioni, ma a differenza di tutte le altre forme di vita dobbiamo dare senso alla nostra vita e saper rispondere alla domanda chi sono io. Ok, domanda che ci facciamo ogni tanto, ma quando ce la facciamo è dura. Ok? E gli adolescenti hanno dei problemi seri in questo senso, problemi biologici e dati semplicemente da una transizione verso l'età adulta. Non sopportano più di essere definiti dalle appartenenze precedenti, quindi di pensare come papà, di vestirsi come mamma, di fare le cose tutti insieme, eccetera, eccetera. E allora cercano di essere speciali e mettere delle distanze, dei segni forti. Però poi hanno paura. E allora cercano il consenso del gruppo, cioè del gruppo extrafamiliare. Perché non saper bene chi sono, non essere più come mi hanno spiegato che sono papà e mamma, mi fa sentire libero, ma pericolosamente libero. Se invece io mi rilego a un gruppo che ha le sue regole, i suoi segni, le sue celebrazioni, eccetera, eccetera, mi sento di nuovo rassicurato. Ok? E allora questi riti, tutto sommato, mi aiutano a fare questo processo, che è un processo di individuazione, cioè divento un individuo, divento proprio me. L'appartenenza non è una cosa facile da giocare, perché dà anche molto senso di costrizione. Cioè far parte di un gruppo con regole strette, dove tutti devono almeno avere, per esempio, perso la verginità, a me non piace, io non voglio. O dove a tutti devono piacere le ragazze, e invece a me piacciono i ragazzi, eccetera, no? Allora, senza appartenenza non riesco a risolvere il problema con i miei genitori, perché sono troppo solo e troppo smarrito, ma dentro l'appartenenza trovo costrizione, fino all'angoscia. E questi sono i momenti critici. Per cui i segni forti, per quanto riguarda la lettura che io ne so dare, sono segni di individuazione, di identità, e poi di transizione da una fase all'altra. Non sono più un bambino, sono diventato un ragazzo. Non sono più un ragazzo, adesso sono proprio un uomo adulto, una donna, eccetera, eccetera. Mi viene questa riflessione. Per salvarsi da queste costrizioni, sarà necessario mantenere una buona individualità oltre che l'identità, no? Quello ci può salvare poi dagli altri, cioè. È giustissimo, ma arrivarci, no? Perché siamo senza la sponda dietro e senza la sponda davanti, siamo in un alto mare aperto e ci sentiamo veramente smarriti. Appena troviamo una zattera ci saltiamo sopra, poi appunto magari siamo con una banda di disperati, però da soli è terribile, da soli fa paura. Comunque l'obiettivo è diventare individuo nell'interdipendenza, cioè io dipendo sempre dagli altri e gli altri un po' dipendono da me in uno scambio, in una posizione sempre vicendevole. Certo. Ma, però è un passaggio, sono anni più o meno faticosi secondo le storie, secondo le persone. E questi riti diventano molto duri, sì. Difatti ci sono persone che si tolgono la vita, che hanno un equilibrio precario loro, non è che tutti quelli pressati dal gruppo si tolgono la vita, però ci sono ragazzi che non ce la fanno, si uccidono. Ed è terribile, è dolorosissimo. Il discorso più insopportabile di tutti quelli che possiamo fare. Certo. Lo so, ma per pensarla così bisogna essere già quasi adulti. Da ragazzi non siamo ancora capaci. È difficile. Va bene. Ma essendo noi gli adulti, come possiamo aiutare i nostri figli a scegliere magari un gruppo un po' meno di disperati, un gruppo che abbia qualche valore, qualche base? Difficile. Mai capito, non so. Credo che ci sia di mezzo una piccola questione, dobbiamo proporglielo, ma se vedono che ci teniamo tanto, stanno alla larga. Quindi, dobbiamo trovare sistema lì in mezzo, no? Per cui tu glielo proponi e dici, ma guarda, deve piacere a te, eh? Proprio se ci tieni. Perché se no rientriamo nel meccanismo, cioè ti ridefinisco attraverso il gruppo a cui devi appartenere, dico, non vale. Cioè, ci dicono, d'accordo, sì, gente interessante, eccetera, ma non va bene a me. No, se invece gli mettiamo intorno una comunità ricca, variata e sana, ragionevolmente sana, hanno già possibilità di posizionarsi, di solito dove non piace a noi, ma va bene lo stesso, cioè l'importante è che sia qualche cosa che li convince. Però è un gioco d'azzardo, insomma, se spingi troppo sgamano la cosa, se spingi troppo poco non l'annusano e quindi non sappiamo mai cosa fare, giusto. Molto difficile. Io sono molto ottimista, nel senso che tutte queste cose non le abbiamo inventate, tutte queste cose sono scritte dentro di noi, se noi le lanciamo in modo autentico e le mettiamo a disposizione, poi i ragazzi se le costruiscono, cioè non è che proprio le dobbiamo mettere in ordine e far funzionare, no? Cioè, hanno corpi, menti, cervelli preparati per questo, cioè, l'amore, noi siamo disposti ad amare, proprio per ragioni naturali, perché siamo fatti così. Poi è tanto difficile amare e costruirsi un amore, allora forse c'è bisogno di un po' di esperienza, un po' di condivisione, un po' di sostegno. Però non è che dobbiamo far venire in mente a un ragazzo che è bello amare. Ce l'ha scritto nel suo codice genetico, ce l'ha scritto nelle sue mani, nei suoi occhi, in come guarda il mondo. È solo un cammino tanto difficile da percorrere, quindi abbiamo di sostegno, di qualche spunto, di qualche testimonianza. Però non siamo noi a doverglielo far venire in mente, ce l'ha già in mente. Se no sarebbe complicatissimo, cioè non sapremo neanche da dove incominciare. È un lavoro da seminatori, non siamo poi noi che facciamo germogliare il grano, cioè noi cerchiamo di seminare bene. Visto che l'avevate chiesto all'inizio, io proverei a mettervi a disposizione una parte di discorso meno disponibile, nel senso che di tutte queste ultime cose che stiamo dicendo, credo che si possa parlare facilmente se ci confrontiamo, se abbiamo il tempo e la voglia di confrontarci. Adesso, per esempio, è bello farlo insieme, però anche molto meno numerosi, se si riflette a qualche cosa sarebbe. C'è invece un aspetto che forse è più specifico della sessualità. Provo a dirvelo in poche parole, poi se volete lo approfondiamo. Cosa succede quando si attiva la nostra sessualità? Succedono delle cose importanti, sulle quali la medicina e poi la psicologia hanno incominciato a fare studi seri soltanto intorno al 1960. Quindi sono poco più di 50 anni che ci occupiamo sistematicamente e con un metodo scientifico di sessualità umana. Prima non c'era neanche un esperimento di laboratorio per sapere cosa succede davvero nel corpo e nella mente. Ok? Non è poca cosa. Cioè, è giovanissimo questo discorso. Quando io ero ragazzino, nei libri non c'erano ancora le conoscenze che adesso abbiamo. A quest'ora non voglio farvi un discorso noioso e scientifico, però chi va nel letto di qualcun altro dovrebbe avere in mente poche cose importanti. Ciò che accadrà lo si può suddividere in momenti diversi, come se fosse una sequenza, un film, no? Che è fatto di scene diverse. Questi momenti sono stati individuati con una certa fatica dalla scienza. Per farvi un esempio, per tanti anni, più di 30, si è lavorato trascurando completamente il fatto che per fare sesso bisogna averne voglia. La scienza lo dava per scontato e studiava soltanto ciò che succedeva. È negli anni 80 che abbiamo incominciato a ragionare sul desiderio e a scrivere le prime cose sul desiderio. Oggi pensiamo a quattro momenti diversi, che tutti gli uomini e le donne che hanno un incontro dovrebbero avere in mente per un'unica ragione: per potersi autoriparare i danni della sessualità quando, o prima o poi, accadranno nella loro vita sessuale. Solo dopo aver fatto questo tentativo si va a chiedere aiuto a un sessuologo, a un medico, a uno psicologo. La maggior parte dei problemi della vita li affrontiamo e li autoripariamo. Come possiamo autoriparare? Vediamo. Se io so che bisogna avere desiderio, comincio a usare un atteggiamento molto diverso verso mio marito, verso mia moglie, verso il mio ragazzo, la mia ragazza. Facciamoci domande di base. Dove nasce il desiderio? Il desiderio nasce dal corpo, ormoni, neurotrasmettitori, molecole che fanno funzionare i neuroni. Ok? Quindi dentro di noi ogni tanto viene voglia e basta. Non so se avete mai fatto caso, ci sono delle volte in cui non sta succedendo niente, ma voi avete voglia e basta. Capita ai maschi e alle femmine, più o meno allo stesso modo. Poi però ci sono invece dei segnali che ci fanno venire voglia e vengono dal mondo esterno. E sono cose che vediamo, che ascoltiamo, che assaggiamo, che annusiamo. Sono cose che ci toccano fisicamente il corpo, ma soprattutto un segnale potente è il segnale del desiderio di un'altra persona ed è il segnale della disponibilità, dell'interesse verso la nostra persona, che poi è il segnale che regola il corteggiamento, il farsi la corte. In ordine questo è il più potente di tutti, anche se sono già potenti i segnali visivi, i segnali tattili, eccetera, eccetera. Okay? La pubblicità è basata molto su questa connessione, cortocircuito tra desiderio sessuale e acquisto di beni che non sono sessuali. Insomma, in qualche modo ci fanno venire delle voglie. Okay? E poi c'è un terzo modo per provare desiderio, una terza sorgente che è nella nostra mente. Sapete che nella mente noi proiettiamo sempre dei film, delle scene, delle immagini, no? C'è un flusso di pensieri. I pensieri non sono parole, i pensieri sono immagini che si susseguono e che noi costruiamo e che abitiamo in qualche modo. E ogni tanto queste immagini sono sessuali. A volte ci mettiamo lì e ce le creiamo apposta, ci facciamo venire dei pensieri sessuali. Nell'adolescenza, anche per ore, si mette lì, no? Sul letto, pensa, è sessuale, va bene? Questi tre modi normalmente funzionano insieme e sono una saggia miscela che regola il nostro desiderio sessuale. Ma se viene a mancare l'interesse da parte di un'altra persona, il modo della biologia, le molecole, e il modo delle nostre fantasie incominciano a girare male e incominciano a crearci piccoli affanni sul desiderio. Troppo perché non ci sentiamo mai desiderati, troppo poco perché tanto non ne vale la pena. Quindi è la relazione il più potente generatore di desiderio, è l'essere guardati con desiderio, è l'avere un corpo che si avvicina a noi con desiderio. E di questo dobbiamo tenere conto perché a volte non è il corpo giusto. Giusto secondo la nostra teoria dell'amore, magari è il corpo della nuova giovane segretaria di mio marito, quello che attiva il suo desiderio invece del mio. Ok? E lì ci sono dei problemi su quale corpo e su quale segnale. Però si sta nel mondo e quindi il desiderio deve essere curato bene se vogliamo che continui a funzionare secondo il nostro piano condiviso. Adesso immaginiamo uno che ha voglia. Se sono molto giovani hanno sempre voglia tutti e due, sempre, e quindi il problema non si pone. Ma anche da ragazzi a un certo punto succede che una volta lui ha voglia e lei no. O viceversa, oggi capita sempre più spesso, lei ha voglia e lui no. Una volta non si poteva dire una cosa così. Adesso è uno dei problemi, insomma, delle ragazze voraci e predatrici, no? E dei ragazzi spaventati che dicono, mamma mia, cosa vuole da me questa qua? Invece quello che tutti i ragazzi hanno sempre voluto da una donna, invece lo spaventano. E qui si pone un problema. Ammettiamo che io adesso abbia voglia e tu sia la mia ragazza o tu sia mia moglie. Come facciamo? Beh, c'è una teoria abbastanza diffusa secondo la quale, visto che sei la mia ragazza, visto che io ne ho voglia, me lo fai fare, a meno che tu non stia proprio molto molto male. No, perché ci sono delle deroghe a questa regola, no? Ma molto. Okay. Se no, perché avrei una ragazza a fare, no? Non lo so, non ho capito. Credo che non sia una buona idea, ma è usatissima. Okay. Oggi su 10 pazienti sessuologici 4 arrivano con questo tipo di problema, non riescono più a mettersi d'accordo sul loro desiderio sessuale. Tanti. E poi noi sappiamo per studi clinici che ogni tanto uno dice vabbè, fallo, facciamo. E questa è la morte del desiderio di chi si concede. Ok? Si sviluppa un disturbo clinicamente riconoscibile, che si chiama disturbo da desiderio sessuale ipoattivo, cioè troppo poco attivo, e muore il desiderio in quella persona. Quindi fare l'amore contro voglia uccide il desiderio in chi subisce. Non subito, una morte lenta, per cui sembra che vada tutto bene, che funzioni, e poi man mano si smarrisce. Allora bisognerebbe mettere una regola. Io propongo una regola, vediamo se va bene a tutti. Si può fare l'amore. Dove fare l'amore è qualunque gesto nato da un'intenzione sessuale. Quindi non mettere il pene nella vagina, anche, ma anche solo farti una carezza nei capelli. Ok? Se è una tenerezza, la gestiamo in un modo. Se invece è il mio modo di cercarti sessualmente, quello è già fare l'amore. Quindi, tornando da capo, si può fare l'amore soltanto se ne abbiamo voglia tutti e due nello stesso momento. Durissima come regola, perché la statistica gioca contro. Mettiamo due aiuti. Non è obbligatorio che la voglia di fare l'amore sia pari. Io posso avere voglia 1, tu puoi avere voglia 100, ma siamo nel quadrante dell'averne voglia. Perché? Perché non sarà un andare contro di me, ma sarà un... Vabbè, dai. Ok, l'idea mi piace, avrei fatto un'altra cosa, ma perché no? Ok? altro aiuto, tu puoi non avere voglia, ma mi hai attribuito il diritto di provare a fartela venire, ok? Non ho il diritto di provare a farla venire a una tua amica, ma a te sì, ok? Questa è la regola che ci siamo dati. E quindi se tu non hai voglia non è che io dico vabbè vado da un'altra parte, no, dico no, io provo con te, ok? E allora con questi due aggiustamenti noi facciamo l'amore, vuoi fare l'amore qualunque gesto sessuale, soltanto se ne abbiamo voglia tutti e due insieme, in quel momento, però non necessariamente la stessa quantità di voglia, e poi c'è sempre la possibilità di provare a farla venire. Quindi strade percorribili ce ne sono, ce ne sarebbe. Due violazioni terribili nelle nostre case. Scagli la prima pietra qui. Allora, prima, il baratto. Il baratto è una cosa molto semplice. Facciamo l'amore? No, sono stanco. Facciamo l'amore? No, sono stanco. Vabbè, dopo un po' uno dei due è esasperato, facciamo lui. Però anche lei potrebbe essere esasperato, arrabbiato, e allora una sera si va e si propone, dice, senti, se io questa sera metto a letto i bambini, sparecchio e carico la lavastoviglie, porto fuori il cane, poi tu me lo fai fare? È detto così, fa ridere, però è una proposta da considerare. Anche perché si creano dei precedenti strani, dice, ma allora la sai caricare la lavastoviglie? Per dire. Che era una cosa che sembrava fuori dalla portata, no? Perché noi aspettiamo sempre di leggere prima le istruzioni, no? Che non abbiamo mai tempo di leggere, e allora poi... Vabbè, si creano dei precedenti strani, che vogliono dire, perché no? Questa è prostituzione in casa, no? Vabbè, la prostituzione è un semplice baratto tra sesso e non sesso, uno può offrire di tutto, anche favori, va bene? Di ogni tipo. Ed è pericolosa. A volte arriva bene, però non è il sistema. Qualche altra volta invece in casa si usa la violenza sessuale. Non pensate a gente che si fa del male, questo solo ogni tanto va a finire sul giornale. Vabbè. C'è stata una giornata, ci sono delle giornate su questo problema terribile, c'è gente che si uccide per cose di questo genere, però adesso stiamo in cose più ordinarie, pur con attenzione e solidarietà a questo problema terribile della violenza. Ma c'è una violenza molto ordinaria e non straordinaria, che è la violenza di chi mette sul muso. Tu non mi fai fare l'amore? Beh, e adesso io non ti faccio più amica, ok? Comincio a essere antipatico, più che posso, va bene? E ti dormo nel letto dandoti sempre la schiena, va bene? Tu provi col piede, che freddo, via, non ti voglio, va bene? E tutta questa antipatia a un certo punto diventa una pressione forte, che non è corteggiamento, è veramente una pressione violenta, fino a quando uno cede e dice, no, per tenermelo così, no, o per tenermela così, no. E allora lo faccio. C'è gente che conta i giorni, dice di solito tiene 8-9 giorni, è meglio prevenire. No, no, è terribile. No? Allora io faccio fare verso il settimo, così non mi prendo tutta la parte brutta, no? Tranquilla, e poi per 8-10 giorni sono tranquillo io. Okay. Ecco, questo è un desiderio spianato, ok? Non funziona, non ce n'è più. Allora, prostituzione e violenza sono molto diffuse in forme, ovviamente, che fanno anche un po' sorridere, però la sostanza è questa, baratto e pressione violenta per farti star male, e siccome stai male mi fai far sesso. Questo è l'accesso, no? Alla sesso. Anche tra ragazzi succedono queste cose. Perché noi abbiamo da chiarire una questione con loro, se il desiderio nasce così, e se lo si alimenta soltanto difendendolo da ogni forma di abuso, allora dobbiamo avere un sistema adatto, che non è il sistema del diritto e del dovere. Il desiderio sessuale è fuori dal sistema dei diritti, non può essere normato da nessuna forma di sistema dei diritti. Quando io mi metto con te, non acquisto un diritto sul tuo corpo, per nessuna ragione al mondo. Il tuo corpo non è oggetto di trattative, di compravendite, di accordi, di rogiti, di nessun tipo. mentre non la pensavamo così, e molti non la pensano così, e la Chiesa Cattolica ha smesso di pensarla così, col Concilio, ma prima c'era il debito coniugale, mi spiego, nel codice di diritto canonico, questo non c'è più nulla di tutto questo, c'è l'amore umano modo nel codice di diritto coniugale, che tiene conto di mille sfumature, ma prima c'era il debito. Cioè, il debito nasce solo da un sistema di diritti e doveri, con regole anche abbastanza precise, d'accordo? Per cui togliamo la sessualità dal diritto, nessuno ha diritto sul sesso di nessun altro, per nessuna ragione il matrimonio non sancisce questo diritto. Il matrimonio crea un contesto dove è naturale e desiderabile che si usi il sistema delle proposte. Io sono diventato colui che si proporrà a te. E tu ti proporrai a me. Quando? E quando ti proporrai? Magari ti faccio ricordare che è interessante proporti a me. Mi spiego? Questo sì. Ma sono proposte. E il sistema delle proposte non prevede il cattivo umore da hai violato un mio diritto. Prevede un po' di dispiacere, normale, un po' di tristezza, e prevede che io mi renda più interessante per te, perché ti corteggi. Okay. Il sistema delle proposte è difficile da usare, anche perché non ce lo insegnano tanto, ed è un sistema nobilissimo per fare cose importanti nella vita, a volte molto più potente del sistema del diritto. Si usa in questi tre modi sostanzialmente. Io ti faccio la proposta, ti cerco, e tu mi dici sì. E questo modo è facile da usare perché siamo contenti tutti e due. Più difficile quando tu scegli la seconda via e mi dici no. I no bisogna saperli dire. Nel sistema delle proposte funzionano. Pensate a una cosa. I no che io ti dico sono la più grande tutela del valore dei sì che ti dirò. Se io posso dirti no, i miei sì valgono. Sono proprio io con te. Se io posso solo dirti sì, quei sì hanno valore zero. Tu non saprai mai se io sono con te quando ti dico sì. Ti lascio solo fare una cosa. Ok? Perché ha valore un sì? Perché esiste la libertà del no. Ma il no non è necessariamente un no contro di te. È un no a quella proposta in quel momento. E allora questo io te lo posso far sapere. Ti dico no adesso. Ma tu mi piaci. Io ti voglio bene e per farti tranquillo ti verrò a cercare. Così il no è un altro modo per stare attivi nella ricerca l'uno dell'altro dentro un sistema di proposte. E poi c'è la cosa più terribile, il forse. Già da piccoli ce lo fanno patire, non so quando avete chiesto un permesso se non vi siete sentiti dire vedremo cosa, no? L'hanno mai detto? Posso uscire domenica? Vedremo. È già una minaccia. E contiene già un implicito ricatto, che vuol dire, se ti sarai comportato. Oh! Ovviamente uno non accetta questo vedremo. No. È diverso. Il sistema, il forse è un'altra cosa, ma è bello il forse. Solo dobbiamo cambiare un po' mentalità sul fare l'amore. Per esempio, io potrei avere voglia di star con te. Ma non di fare tutto. Se penso che faremo tutto, no. Non inizio, non ce la faccio, non c'è spazio, non ho testa, non ho cuore, non ho corpo. Però stare un po' con te, sì. Attenzione, non equivocate, no? Perché ci sono a volte delle soluzioni del tipo, no, fare l'amore no, però se mi fai un po' di coccole, questo mette di cattivo umore, soprattutto i mariti. No, bellissimo farsi le coccole, ma non come soluzione alternativa. No, la cosa è, facciamo l'amore solo fin dove ci sentiamo di farlo. Prendete un'immagine orientale suggestiva, no? Perché fare l'amore è descritto come passeggiare nel giardino dei sensi, del piacere, dell'amore. Questo passeggiare non è finalistico, non è devo arrivare al fondo del giardino, ok? Ci passeggio, faccio due passi, mi siedo, guardo le piante, è un'altra immagine. La nostra immagine è molto più simile, devo entrare in una galleria e uscire dall'altra parte. Mi spiego? Cioè, è una cosa da iniziare e da finire. E allora scoraggia tutti quelli che non vogliono impegnarsi in un incontro, ma sarebbero invece contenti di stare insieme facendo l'amore. Poco, un gesto, uno sguardo, una carezza, che possono diventare 2, 10, che possono diventare anche la penetrazione, il coito. Perché no? Mi spiego? Ma senza averlo deciso prima. Qualcuno dice, sì, poi inizio e sto male. No, è un po' di vasocongestione, ma si risolve e non produce niente di grave dal punto di vista fisico. Mi spiego? E questo apre un mare di possibilità. Se noi smontiamo l'idea finalizzata del fare l'amore e la rendiamo un'esperienza di incontro sessuale, chiaramente sessuale, e ne prendiamo soltanto quello che man mano ci sentiamo di prendere, di scambiarci, di darci, intanto tiene vivo il desiderio e poi tante volte ci viene anche voglia di continuare. L'appetito viene mangiando, diremmo in altre parole più semplici. 3 modi. Sì, no, ma un no detto bene, un no che vale, e forse, stai con me, vediamo. Basta che non dobbiamo poi fare tutto, ma facciamo quello che ci viene. Così il sistema delle proposte funziona e tiene vivo il desiderio. E diventa la manutenzione del desiderio. Diventa il tenerlo non solo attivo, ma ben funzionante. A questo punto c'è il passo successivo. In realtà non sono distinti il desiderio dall'eccitazione, sono mescolatissimi. Però cosa succede quando ci eccitiamo? Beh, dal punto di vista fisico è facile da spiegare, poi studiarlo bene è molto complesso, ma insomma, per dirlo in modo semplice, che cosa succede? Succede che un sistema elettrico, il nostro sistema nervoso, manda segnali a un sistema idraulico, vene e arterie, no? Che si mettono a funzionare in un altro modo. E quindi invece che far circolare il sangue in certi tessuti, lo trattengono e li fanno gonfiare, sia nei maschi che nelle femmine. Nelle femmine il sangue trasuda attraverso le pareti della vagina nella sua componente plasmatica e la bagna, nei maschi invece non trasuda ma irrigidisce il pene, ma anche nelle femmine irrigidisce il clitoride. Abituiamoci a pensare che succede la stessa cosa, cambia solo la forma degli organi. Mi spiego, però maschi e femmine allo stesso modo. Attenzione a 2 o 3 tranelli. Voi dite, ma i ragazzi... ai ragazzi interessa poco, ma non glielo dirà più nessuno, quindi diteglielo. Così come abbiamo cercato di dargli delle idee su come gestire il desiderio, adesso gli diamo delle idee su come gestire l'eccitazione. L'eccitazione nei maschi e nelle femmine è regolata da 2 sistemi. Uno è tutto nella testa e l'altro è tutto nel corpo. Allora, un sistema funziona a carezze, quello del corpo. Toccato bene l'apparato genitale si eccita. Ovviamente se c'è desiderio, però a volte anche toccare fa nascere desiderio e fa nascere eccitazione, dipende ovviamente se lo facciamo alla persona giusta, nel posto giusto, anche un approccio diretto a volte funziona, no? Quindi desiderio. E poi c'è invece del desiderio che nasce da qua, che è la parte più legata all'immaginazione, al sentimento, all'amore, al legame, a ciò che insomma stiamo cercando di realizzare insieme. Ma anche immagini forti, sessuali, erotiche, ok? Si mescolano le 2 sorgenti, sono proprio 2 vie nervose, adesso non sto a dirvi i nomi dei nervi, non so se volete, è tutto documentato. C'è una via nervosa che parte dal pene, dalla vagina, dalla vulva, dal clitoride della vagina, e un'altra che parte dal cervello. E fanno fare tutte e 2 la stessa cosa. Più sangue dentro agli organi genitali, meno sangue che esce, così si irrigidiscono. Nel tempo le cose cambiano, e questo bisogna saperlo, perché ci sono un mucchio di crisi brutte dovute all'ignoranza. Un ragazzo non riesce mai ad avere l'erezione perché una ragazza lo sta toccando, perché gli è venuta quando ha capito che stava per toccarlo. È anche una ragazza che lo fa vedere di meno, non riesce a eccitarsi perché un ragazzo la sta toccando. Si è già bagnata perché pensa alla mano di quel ragazzo che forse la sta per accarezzare, ok? Quindi il sistema dalla mente, da giovani, è più veloce di quello delle carezze. Arriva prima, fa subito eccitare. Da vecchi succede il contrario. Continua a essere bello tutto ciò che ci passa per la testa, ma l'eccitazione che funziona più in fretta è quella delle carezze. Ok? E solo la fantasia, solo il pensiero sono lenti a far funzionare gli organi genitali. Quindi due sistemi che nella vita cambiano posizione l'uno con l'altro. Il brutto è cosa succede a metà strada. A metà strada succede che io ti vedo, sei bella, e tutte le volte che ti vedevo ed eri bella in bagno mentre ci facevamo la doccia, tu lo sapevi che io ti vedevo e ti trovavo bella, perché vedevi la mia eccitazione. Adesso ti vedo, sei bella, ma non c'è più niente. Poi c'è di nuovo, poi non c'è più, vabbè. E poi tu un giorno mi fai quella sorpresa bellissima, che a me piace tanto. Io vengo nel tuo letto, tu mi dici, dai, vieni, sei stanco, cosa stai a fare? E ti fai trovare tutta nuda. E subito, io sono pieno di desideri. Però non succede niente, non c'è reazione. E a quel punto mi preoccupo, vedo fuori dal garage il cartello del Viagra e dico, ecco, è venuto il mio momento, no? C'è da tutto, c'è anche me. Invece no, sta solo cambiando il rapporto tra questi due modi di eccitarsi, no? Più dalla mente, più dalle carezze. Adesso ci vogliono le carezze, ma non tutte le volte, però ogni tanto incomincia già a farsi sentire che ci vogliono le carezze per tenere viva l'eccitazione. E mentre io sono turbato e mi sento impotente, tu sei turbata e dici non gli piaccio più. Non gli piaccio più perché il mio corpo non è più quello di prima, o forse perché c'è una ragazza giovane che lavora con lui ed è più bella di me e siamo in crisi in due, ma in una crisi brutta, perché ci spaventiamo l'uno con l'altro. La crisi è tutta su di lui, perché si vede, anche lei è più lenta a eccitarsi in certe occasioni e vuole le carezze, però non si vede. Per essere molto attenti per capire quanto una donna è lubrificata o meno. Mi spiego, mentre il pene è lì, da spettacolo, si vede subito che cos'è. E su questa crisi si creano dei disturbi dell'erezione terribili. E si creano dei disturbi della relazione e dei disturbi di coppia. Bisogna soltanto sapere una cosa semplice, ok? Che cambia il modo di eccitarsi col passare degli anni. E non cambia del tutto, cambiano le proporzioni. Un modo di più quando siamo giovani e un modo di più quando siamo vecchi. Allora noi sorridiamo e ci diciamo, tu mi piaci sempre. E se andiamo a vedere cosa succede a te, succede la stessa cosa. Siamo un po' vecchi, ma è bello, siamo arrivati a essere un po' vecchi insieme. Ok? E quindi continuiamo a cercarci. D'accordo? Se ci spaventiamo, crisi. Viagra, che camuffa la crisi, lei dice, ma questa non è l'erezione di mio marito, questa è l'erezione del Viagra. Io cosa c'entro? Ricrisi. Ok? Ed è molto difficile poi seguire. E un'ultima cosa da sapere, che l'eccitazione dei maschi e delle femmine non è una linea retta, non è a 100, oscilla. E queste oscillazioni, un po' di più, un po' di meno, cambiano con gli anni. Quando siamo più vecchi, sono più ampie. Quella piccola diminuzione di eccitazione adesso è visibile. E poi risale. Ma di nuovo ci spaventiamo e l'ansia, fa il resto, uccide la sessualità. Dopo è difficile trattarli i disturbi, si trattano, ma è costosissimo in termini di sofferenza, di risorse impegnate e di rischi sulla relazione di coppia, quindi sui figli, quindi sulla comunità, eccetera, eccetera. Prima è molto semplice, basta parlare del sesso davvero. Quando si fa educazione sessuale. Adesso, non necessariamente come genitori, no? Ma in comunità qualcuno che dice, ragazzi, poche cose semplici. Impariamo a usare il desiderio, impariamo a usare l'eccitazione che ha i suoi modi di funzionare e che cambiano durante la vita, nelle diverse età della vita. Adesso vi va in un modo e poi lo vedrete, lo saprete. Nella memoria quel ricordo torna, magari non sanno esattamente cos'era stato detto, ma prima di darsi dell'impotente hanno a disposizione una via percorribile. Di questo potremmo parlare ancora, ma adesso non più perché è tardi e dobbiamo chiudere su un'altra cosa, cercando di farlo insieme, ma era per darvi l'idea di come anche sapere come funzioniamo permette di fare della buona prevenzione. Poche cose, semplici, non c'è bisogno di aver studiato. Per dirle non c'è bisogno di avere ragazzi molto studiosi per saperle, ok? Sul desiderio però mi raccomando, si fanno disastri se non hanno un'idea. E sull'eccitazione prevenite tanti dolori e tante fatiche della coppia se spiegate una cosa così, così semplice, insomma. Un po' la mente e un po' le mani. E abituiamoci a cambiare e a cambiare d'accordo senza metterci paura l'uno con l'altro. Dell'omosessualità solo una cosa mi sento di dire. Non abbiamo capito niente dell'omosessualità, non la conosciamo. E quindi non possiamo dire cose che non conosciamo. Però dobbiamo aiutare i ragazzi a usare il discernimento. Perché non è facilissimo sapere se sono orientato verso le persone dell'altro sesso o dello stesso sesso. E se mi forzano in un senso mi spavento e non capisco. E se subito decidono che allora sono omosessuale mi confondono e non capisco. Ci vuole del tempo. E l'adolescenza è uno spazio per stare in questo dubbio ed esplorarlo. Anche perché ci sono persone che sanno benissimo già da bambini che cosa gli piace e hanno pochissimi dubbi e sono molto orientate. Ci sono altre persone, verso i maschi, verso le femmine, dipende, sono molto orientate. Altre persone che sono meno orientate. E c'è una cosa difficile da capire, da dire, però tutti la sappiamo. Ognuno di noi può provare eccitazione e piacere sessuale anche con una persona dello stesso sesso se è eterosessuale e anche con una persona dell'altro sesso se è omosessuale. Questo il nostro corpo ce lo permette e anche la nostra mente ce lo permette. Sogni omosessuali di persone chiaramente eterosessuali accompagnate da piacere sessuale ce ne sono. Nelle vite di un adolescente sono frequenti, tante poi le dimenticano, no? Dicono, vabbè, è stato uno sogno strano, un brutto sogno, però nelle nostre esperienze c'è che possiamo provare eccitazione e piacere con una persona dello stesso sesso, ok? Quindi non siamo o etero o, siamo distribuiti in un modo che va un po' capito e che forse non si sceglie, si capisce, perché c'è anche quel dubbio, si sceglie, no, non è una scelta, è un conoscere e capire se stessi, ok? E questo fatto che possiamo provare piacere anche per persone verso le quali non saremmo orientati ci confonde ulteriormente, per cui tenere uno spazio ampio e aperto e quando viene il dubbio aiutare con dei discorsi fatti da chi magari è un po' più preparato a farlo. Ma il discorso generale è, ragazzi, ma che cosa state cercando di dirvi? Che siete froci, che siete lesbi, che siete gay, eccetera. Ma cos'è questo, no? Allora, state cercando di sapere chi siete, questo è bello. Volete aiutarvi? Fate fatica gli uni con gli altri? E vabbè, è anche comprensibile, ognuno sta cercando di mettere delle cose in chiaro, l'altro gliele scombina. Quindi, non lo so, fa un po' paura, ma stiamo in questa paura, stiamoci insieme, ok? E prendiamoci tempo, capiremo. Questo perché? Perché ci sono delle persone eterosessuali spaventatissime dell'incontro con l'altro, dell'altro sesso, che scoprono che si può provare piacere anche con uno dello stesso sesso e fanno gli omosessuali senza esserlo e si incasinano molto la vita. Così come ci sono delle persone omosessuali che cercano persone dell'altro sesso, le amano, le sposano, fanno figli e poi un giorno dicono ma cosa sto facendo qua io? Non c'entro nulla davvero. Perché non è una cosa che si sceglie e si costruisce, è una cosa che si ascolta di sé. Mi spiego? E sono due errori che sono fatti per seguire le pressioni del mondo, per paura, per essere precipitosi nelle decisioni, dobbiamo tenere aperto questo spazio. Quindi più che decidere noi, dire noi agli altri chi sono, tenerci disponibili a lasciare loro lo spazio per conoscerlo e per capirlo. Ed essere uno spazio veramente aperto e un tempo anche sufficientemente prolungato. Su questo ci sarebbero altri discorsi, ma sono più complessi e toccano aspetti anche clinici. L'omosessualità non ha niente a che fare con la clinica, però per esempio invece la transessualità, il transgender, ha anche degli aspetti clinici rilevanti. Ma aprirebbe un altro discorso e per questo affidatevi agli specialisti, cioè a persone che lo studiano e che non sanno tantissimo, tutto quello che sanno lo mettono anche un po' a disposizione. Adesso il tempo è il tiranno, noi dobbiamo andare via. Però volevo soltanto che ci lasciassimo con un discorso non tecnico. L'avevamo fatto, poi chiudete voi, l'avevamo fatto solo accennato. I ragazzi lo chiedono tanto, chiedono quando si può fare l'amore, ma poi chiedono, ma è meglio far sesso o è meglio fare l'amore? E la risposta ovvia è troppo ovvia, dire che è meglio fare l'amore non li convince, perché far sesso quando funziona è molto divertente. E far l'amore, come abbiamo visto, va un po' costruito, va un po' progettato, va un po' anche faticato, no? E quindi non è tanto una via percorribile. Noi però dobbiamo, e questo forse è strano, è il messaggio su cui volevo lasciarvi, dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per far venire loro voglia di far l'amore. E questo è anche in controtendenza con i buoni principi educativi. Voi dovreste tenervi a bada, trattenerli, tanto poi lo faranno, ma se riuscite a guadagnare un mese in più, sei mesi in più, no, li tenete lontani dalla tentazione, dal peccato e da tutta una serie di cose. E questo è sbagliato. Intanto perché siamo più deboli della forza della vita, che li trascina avanti anche se noi li tiriamo indietro. Ma poi perché perdiamo l'unica occasione vera di un educatore, che è proporre loro il meglio che c'è nella vita. Fare sesso è bellissimo, ma non ci basta. Dopo un po' sentiamo la nostalgia di qualcos'altro, che non è di più o di meno, semplicemente contiene dentro di sé il fare sesso e gli restituisce senso, e gli restituisce il senso dell'amore. E se non vi piace la parola amore, trovatemi un'altra, ma insomma, gli restituisce senso. E allora noi dobbiamo far venire voglia, una voglia matta di fare l'amore. E loro diranno non ci riesco. Dico certo perché non è facile fare l'amore, fare sesso è più semplice. Basta proteggersi un po' e trovare un tipo giusto che ci sta. A fare l'amore non è facile. Però merita. E nei nostri occhi devono vedere una luce pazzesca che gli fa venire voglia di provarla anche loro, di vedere finalmente la stessa luce che vediamo noi. Non è che mescoliamo la nostra sessualità con la loro, siamo solo testimoni del fatto che ne vale la pena, dove la pena è il dolore, e il dolore vale se il premio è fare l'amore. Io voglio solo salutarvi condividendo il forte senso di privilegio che ho avuto passando queste tre serate con voi. In molti momenti mi avete commosso per la fatica di queste sere e anche la forte testimonianza che l'essere qui si manifestava. E poi le vostre parole, i vostri interventi sono state un grande segno di speranza, perché poi alla fine ce ne torniamo a casa, rischiamo di sentirci un po' soli, invece sapere che c'è tanta gente così mi dà una grande fiducia. Grazie.